l'avevo associato dopo che ci avevamo incontrato a prima volta e subito non avevo dovremmo finire verso le 7 e poi raccontare aria dopo va bene. Sì, no, così arriviamo a casa. Perfetto, allora direi di cominciare. E salve a tutti, io mi chiamo Gabriele Girelli e sono il referente di Trento e anche quest'anno il referente nazionale di Italia Unita per la Scienza, che è questo movimento di volontari attivi su tutto il territorio nazionale che quest'anno in circa 23 città d'Italia sta organizzando eventi di divulgazione scientifica. E la serie di eventi di quest'anno si chiama Capiamo il pianeta. Il motivo di questo titolo è che vogliamo fornire un canale alternativo a Expo 2015 e fornire delle informazioni scientificamente corrette su temi che ci stanno molto a cuore, quali l'ecosostenibilità, il benessere del nostro pianeta, OGM e tematiche parallele a tutto ciò. Gli eventi di Trento sono supportati da tre enti principalmente, il CIBIO, che è il Centro per le Biologie Integrate dell'Ateneo di Trento, e Open Wet Lab, che è un'associazione di volontariato e di divulgazione scientifica, e principalmente ne fanno parte studenti di biotecnologie dell'Università di Trento, ma tutti sono ben accetti, e potete trovarli ogni mercoledì dalle 6 alle 9 di sera circa, qui al MUSE, nel laboratorio al primo piano, perfetto, abbiamo anche il presidente di Open Wet Lab qui in seconda fila. E Ragionevolmente invece è un'altra associazione di divulgazione scientifica, è molto nuova, è nata circa un paio di mesi fa e questa invece opera principalmente nel territorio altoatesino, quindi se avete conoscenti di Bolzano potete indirizzarli a questa associazione che organizza anche eventi di Capiamo il pianeta a Bolzano. Infatti questa è la locandina dell'evento di Bolzano che si terrà il 28 maggio, quindi la settimana prossima, all'Eurac Research, sempre di Bolzano, e parlerà di vita agli estremi la natura insegna, ovvero organismi estremofili, un linguaggio un po' tecnico, non voglio annoiarvi, e acqua, ambiente di vita, agli estremi della Terra e sopravvivere nello spazio. Sarà molto interessante, vi invito a partecipare. Questa è la squadra di ragazzi di Italia Unita per la Scienza di Trento, quindi siamo 21 ragazzi, principalmente studenti universitari, a parte me e un'altra, quindi Gabriele e Marta, lì in mezzo, che siamo un ex studente e una dottoressa di ricerca, e in giurisprudenza. Non siamo tutti di biotecnologia, anche se il tema degli OGM è molto legato al mio ambito, sono un biotecnologo laureato alla magistrale da qualche mese. Abbiamo anche una matematica e una giurista in questo caso, e siamo stati seguiti anche da una filosofa che ci ha aiutato in qualche momento durante l'organizzazione. L'evento per cui siamo qui oggi è Modifiche Geniali, quindi abbiamo qui due relatori, un ospite e un moderatore che ringrazio per la disponibilità, che sono Andrea Cago, il giornalista scientifico, Geremia Gios, Eugenio Caricetti e Riccardo Velasco. Il programma di oggi è il seguente, iniziamo con l'apertura, che sto facendo io in questo momento, quindi niente di nuovo. Quindi presenterò i vincitori del concorso L'arte di fare scienza, non voglio dirvi nulla ancora, ve ne parlerò tra qualche istante. Quindi farò una brevissima introduzione molto interattiva in cui vi inviterò a partecipare e a dialogare con me sul tema degli OGM e quindi lascerò la parola ai nostri due relatori, Eugenio Caliceti e Riccardo Velasco in ordine, e quindi ci sarà questo momento di discussione con voi e con i nostri ospiti. Quindi questi sono i nostri contatti, se volete contattarci. In ognuno di questi punti avete prima il contatto nazionale, poi il contatto locale a Trento, quindi potete contattarci tramite email. Su Facebook abbiamo due pagine, anche su Twitter o sul sito internet. Il primo sito internet è quello in cui pubblichiamo principalmente articoli di divulgazione, mentre il secondo è quello che contiene tutti gli eventi sul territorio nazionale di Capiamo il pianeta. Quindi se volete informazioni su eventi che si terranno in altre città, li trovate all'indirizzo 2015.italiaperlascienza.it. Se durante questo evento volete twittare qualcosa o pubblicare qualcosa su Facebook, potete utilizzare questo hashtag, Italy for Science, Italia per la Scienza. E bando agli indugi, andiamo direttamente alla premiazione del concorso L'arte di fare scienza. Quest'anno abbiamo voluto, oltre a organizzare eventi di divulgazione con voi, anche organizzare questo concorso artistico letterario in cui invitiamo persone attive nel campo artistico a produrre un'opera pittorica o artistica e opere letterarie legate alla scienza, quindi l'arte di fare scienza. E dato che non mi piace la suspense, non mi piace pubblicare prima il primo, il secondo, il terzo o viceversa, ve li faccio vedere tutti in un colpo solo, eccoli qua. Per la sezione letteraria abbiamo al primo posto La carta vive di Alan Munziani, un racconto molto bello che mi ha ricordato un po' Fahrenheit 451, anche se dico mi ha ricordato, la giuria è composta da 5 persone, quindi non sono stato io a scegliere chi vince, chiaramente. Il secondo posto, La cura dell'ansia di Francesco Andreatta, che ha immaginato questo momento di incontro tra una famiglia che ha sviluppato un odio, a volte pare immotivato per gli OGM, poi discutendo con degli amici biologi inizia a capire che la realtà dei fatti sta nel informarsi e avere, diciamo, un'opinione reale basata su fatti concreti. E quindi al terzo posto abbiamo OGM tra noi di Claudia Contrini, che è, diciamo, un po' un'opinione sugli OGM. Per la sezione artistica abbiamo al primo posto Animali artisticamente modificati, che è quest'opera, molto bella, un collage, di Claudio Rossi, che è qui in sala con noi. Grazie. E al secondo posto La città fantasma, questo dipinto, di Veruska Chinatti, che anche lei è qui in sala con noi oggi. Se non sbaglio, là in mezzo c'è anche Alan, un po' nascosto, il vincitore del primo posto della parte letteraria. Non so invece se Francesco Andreatta e Claudia Contrini sono riusciti a essere con noi oggi, avevano detto che sarebbero stati. Francesco è qui? Ok. Voglio ringraziarvi per aver partecipato e farvi i complimenti. I racconti verranno pubblicati sul nostro sito internet, che il link era visibile prima, questo qui in basso, il primo, italiaperlascienza.it. E anche diciamo, le foto delle opere pittoriche saranno pubblicate lì e li potete trovare invece all'atelier che si trova in via Primandrona numero 9. Primandrona numero 9. Perfetto, perché noi non avendo una sede non possiamo esporli e potrete andare a vederli da vicino, diciamo, di persona qui. Perfetto, allora non perdiamo tempo, parto direttamente con l'introduzione e vi ho detto che voglio farla molto interattiva. Di cosa parlerò in questa introduzione molto breve? Il titolo è Come cambia Re, se vedete c'è un re un po' sbiadito, il DNA. Perché prima vi voglio parlare di come il DNA cambia e poi vi parlerò di come cambiare il DNA. Ma voglio iniziare con una domanda un po', diciamo, strana forse, che è la seguente. Allora, abbiamo un'ape, un cane, una donna, che immagino riconosciate, spero riconosciate, una pera e del lievito di birra. Qualcuno mi sa dire che cosa hanno in comune? Il lievito non ha occhi. E neanche la pera. Idee? Il DNA? Qualcuno ha detto il DNA, qualcosa di più grande? Eh no, l'ape, il cane, una donna, una pera e il lievito sono tutti gli organismi viventi e ogni organismo, diciamo, tutto ciò che noi senza dubbio, diciamo, definiamo come vivente, come vita, è fatto di cellule, si chiama teoria cellulare, non voglio andare nel dettaglio, ma la risposta era la cellula. E la cellula è un sistema molto piccolo, ma molto complesso, non voglio andare nel dettaglio neanche di questo, ma focalizzarci sulla parte che ci interessa, ovvero la cellula, come vedete, contiene molti compartimenti, molte cose diverse, ma questa molto grande qua in viola è il nucleo, e il nucleo contiene il DNA. Okay? Cos'è il DNA? Il DNA, che è molto famoso per questa struttura come una scala a chiocciola. Il DNA è quella molecola che contiene l'informazione, è il manuale con cui la cellula, diciamo, si costruisce ed è in grado di esprimersi. E è praticamente un testo, un manuale, come vi dicevo, scritto con un alfabeto molto particolare, ha solo 4 lettere, non le nostre 26. Queste 4 lettere sono A, C, T e G. E quello che qui vi ho riportato è l'inizio, proprio una parte molto molto piccola, di un gene umano, che è IGF1, ma anche questi sono tecnicismi. Quindi questo è un testo che già qui ci sembra molto lungo, molto complesso. Pensate che queste sono pochissime lettere, mentre il genoma, quindi la sequenza del DNA di un essere umano, è lungo 3 miliardi di lettere. Sono tantissime. E adesso vi faccio una seconda domanda. Secondo voi, questo testo, questo manuale delle nostre cellule, scritto in questo alfabeto quasi arcano, secondo voi è sempre uguale, statico, immutabile o cambia? E se cambia, come cambia? Quando cambia? Idee? Ok, visto che non c'è nessuno che partecipa, mi spiace un po', vi faccio... Secondo voi cambia? Sì, però non so dire quando. Ok, allora vi faccio una domanda. E avete presente che noi iniziamo con una cellula, quando lo spermatozoo incontra l'ovulo, mamma e papà, diciamo, e piano piano si cresce, quindi le cellule devono aumentare di numero, devono crescere di numero, quindi replicarsi. La cellula si replica. Quando si replica, una cellula deve dare origine a due cellule identiche, due cellule figlie uguali a quella di partenza, a quella madre. E quando si duplica, quindi, le due figlie devono essere identiche a quella di partenza, quindi deve duplicare anche tutto il suo DNA, quindi tutta la sua informazione. Le cellule figlie devono avere lo stesso manuale di quella di partenza, altrimenti ogni volta cambierebbe tutto e non avrebbe molto senso, no? Il problema è che adesso immaginatevi voi, vi sedete a una macchina da scrivere e dovete ricopiare a mano 3 miliardi di lettere, quindi battere 3 miliardi di volte i tasti della macchina da scrivere. Ogni tanto può capitare di sbagliarsi, no? Qui ci sono, si fa già fatica a notarli, queste due letterine in rosso sono cambiate rispetto a quella di partenza, ok? Quando una nostra cellula si duplica, ogni tanto c'è qualche errore nella replicazione del DNA. Quindi già qui il DNA è modificato, tutte le nostre cellule non sono perfettamente identiche tra loro. Okay? E un altro momento in cui il DNA nelle nostre cellule può cambiare non è nel momento della replicazione delle cellule, ma è dovuto a fattori esterni. Ci sono fattori esterni quali radiazioni, raggi ultravioletti, agenti chimici, che possono modificare il DNA, quindi andare proprio a cambiarne singole lettere o interi pezzi. Ma c'è, diciamo, un altro fenomeno, di cui vi ho già accennato prima, molto importante, per cui tutti noi ci siamo già passati, in cui c'è stato un incontro tra due genomi diversi e se ne è creato uno nuovo diverso da quelli di partenza. Chi me lo dice cos'è? Concepimento, la fecondazione. Eccolo qua. Chiaramente quello è l'uovo sbagliato. Durante la fecondazione, due genomi di due organismi diversi, la madre e il padre, si fondono dando origine a combinazioni nuove. Per questo i figli non sono mai identici ai genitori. E diciamo questo, molto veloce, questa carrellata un po' veloce, sì, e conclude la parte di come cambia il DNA. Adesso invece parliamo di come cambiare il DNA. Anche questo voglio farlo un po' interattivo. E per fare qualcosa di un po' concreto voglio parlarvi degli OGM vegetali. Quindi abbiamo parlato di DNA modificato, quindi organismi geneticamente modificati. Parliamo di piante. Il primo modo per cambiare il DNA di un organismo è attraverso l'incrocio, ovvero fecondazione e concepimento. E voglio farlo in una maniera un po', diciamo, diversa dal solito. Quindi ho preparato questo piccolo esempio. Abbiamo un fiore rosso e un fiore bianco. Okay? Allora, io l'ho già incrociati e ho preparato diversi semi che vi lancio. E voi li dovete aprire, farli crescere e vedere poi alla fine cosa succede. Perché? Perché quando si incrocia una pianta si producono sementi particolari e queste devono crescere fino a che non viene espressa la caratteristica che vogliamo e decidiamo se era quella che volevamo. Ad esempio, noi abbiamo il fiore rosso e il fiore bianco. Il nostro obiettivo quale sarà secondo voi? Rosa. Vogliamo ottenere un fiore rosa. Adesso non so se lo beccheremo al primo colpo. Speriamo di no. Qualcuno vuole una pallina, un seme? È là in fondo. Non so se arrivo fino là in fondo. Ci provo. Fallo crescere. No, no, è un ibrido. Scrivicelo. È un ibrido. Retro, giralo. Ma non penso che nasca così, beh. È tutto rosa? No. Vabbè, cioè, qui ci sono 5 petali, di cui due rossi, diciamo rossi, due bianchi e uno rosa. Però se gli incroci bisogna vedere le percentuali, in teoria no. Dipende un po' dalle caratteristiche del genere, se è un singolo gene, se sono più geni. Tu cosa faresti del adesso colore. Del colore? Lo incroceresti con uno bianco o con uno rosso? Come andresti avanti? Con cosa? Oh, mica sono me, cioè, lui era un frate. Visto che ce ne sono ancora due, io con un bianco ancora. Ok. Però dovrebbe essere un bianco con dentro esso ancora modificato, dovrebbe avere dentro un allele del rosa, okay. Se no non ne veniamo fuori. Ok, a mio parere. Proviamo con un altro seme adesso. Chi è che vuole il secondo seme? Nessuno, lo lancio a caso, prendetelo però. Lì? Ok. Io no. Ok. Non c'è problema. La piantina cresce. E com'è questo? È bianco, rosa e giallo. Questo è sfumato. È sfumato, sì. Quindi anche qui abbiamo in parte quello che volevamo, cioè delle parti rosa ci sono, ma non è totalmente rosa. Anche questo è un altro risultato che potremmo ottenere attraverso un incrocio. Proviamo con qualche altro seme, vediamo, ne lancio un paio adesso per vedere se... Anzi, li lancio tutti, sono quattro. Anche i tulipani. Ve li lancio tutti e quattro, li aprite insieme e mi dite chi prende il rosa. Tamara? Qualcuno ha trovato il fiore rosa? Ok, abbiamo un fiore rosa. E gli altri hanno trovato qualcosa di strano? Qualcuno qualcosa di strano? Sì, il presidente di Open Wet Lab l'ha trovato particolare. Cos'è? Ho trovato un fiore a pua, tipo Pimpa. Però Pimpa era il contrario, era rosso, pua bianchi. Ok. Questa era una cosa un po' simpatica per farvi capire come funziona l'incrocio. Dobbiamo incrociare due organismi, quindi c'è tutta la parte di selezione che toglie tempo, l'organismo deve crescere. A quel punto decidiamo come incrociarli di nuovo. È un po' una ricerca guidata. Partiamo da due punti di partenza che conosciamo, il bianco e il rosso, e andiamo alla ricerca di quello che desideriamo, quello rosa. E non è detto che l'obiettivo finale sia raggiungibile. Ad esempio, un fiore tutto rosa potrebbe non poter esistere in questo modo, potrebbe non essere raggiungibile. Diciamo, questi due geni potrebbero non stare bene insieme, la pianta potrebbe morire prima di arrivare allo stadio in cui sviluppa il fiore. Ci sono molte, molte variabili diverse, non è così semplice come potrebbe sembrare. Però questo è il metodo classico, è come si faceva un tempo. Il secondo metodo, secondo voi, cosa sarà? Prima vi ho detto, il DNA cambia in natura quando le cellule si duplicano, scusate, quando c'è la fecondazione, quindi l'incrocio sfrutta questo fenomeno. Vi ho detto anche che il DNA può cambiare da solo, e poi vi ho detto anche un'altra cosa. Come può cambiare il DNA? Non eravate attenti. Perfetto, fattori ambientali. La mutagenesi. E, diciamo, una tecnica che veniva utilizzata, si utilizza talvolta anche oggi, è esporre le sementi a radiazioni, quindi si provocano, diciamo, non danni, ma modifiche casuali al DNA, il manuale cambia a caso e cerchiamo di andare incontro all'obiettivo che vogliamo. Possiamo partire da un fiore bianco, da un fiore rosso, andiamo a ricercare il fiore rosa, cambiando a caso, questa volta è aleatorio, proprio casuale. La terza tecnica di cui vi voglio parlare molto brevemente è anche questa basata su un fenomeno naturale. Questa si chiama ingegneria genetica. E spesso sentite paroloni, tra virgolette, come la tecnica del DNA ricombinante, proprio quella di cui vi voglio parlare adesso in breve. In pratica, si è scoperto che la cellula, questa qui, se trova del DNA nell'ambiente, in determinate condizioni, può assorbirlo, farlo proprio, ed esprimere l'informazione che questo frammento di DNA conteneva. Quindi, abbiamo visto che si può incrociare un fiore rosso e un fiore bianco, sperando di arrivare al rosa, un po' guidati. Si può provare ad arrivare al rosa, cambiando a caso. Oppure, se sappiamo che c'è un gene di quel fiore, che è rosa, possiamo metterlo in quello bianco e fare il fiore rosa. Questa è la seconda tecnica. Però adesso che vi ho detto la parola gene, o sequenza di DNA, questo filamento di DNA verrà da qualche parte, no? Verrà da un'altra cellula. Si fa generalmente la distinzione tra due tipologie di diciamo, organismi generati in questo modo, quelli transgenici e quelli cisgenici, per cui c'è questa simpatica vignetta, se arriva. Ok. Non parlargli è transgenico. Cosa vuol dire transgenico? Vuol dire che quella sequenza di DNA che ho messo nella cellula viene da una specie diversa. Quindi non ho modificato una mela con un gene di una mela, ma con un gene di un altro organismo. Sappiate però che, come vi ho detto, il DNA di tutte le cellule, di qualsiasi organismo, è scritto con lo stesso alfabeto. Quindi in realtà in natura, in tanto tempo, potrebbe svilupparsi in una specie il gene di un altro. E bene o male comunque abbiamo un corredo di geni che di base ha un cuore comune a tutte le cellule. Si parla invece di organismo cisgenico quando quella che ha aggiunto è una sequenza di DNA proveniente da un altro organismo ma della stessa specie. Quindi ad esempio prendo una mela, gli inserisco il gene proveniente da un'altra mela, ad esempio gli voglio dare, non lo so, la protezione da un parassita che la mela a cui l'aggiungo non ce l'ha, ottengo una mela con i gusti, le caratteristiche di quella di partenza ma che ha la resistenza ai parassiti. Talvolta questo non è ottenibile con approcci classici quali la mutagenesi o l'incrocio, perché non passo solo quel gene ma ne passo molti altri. Quindi se la mela che resiste ai parassiti è brutta, è aspra, ha un gusto terribile, non la mangerò. Se però metto solo il gene, diciamo, della resistenza e non quella del cattivo gusto, dell'asprezza, eccetera, nella mela che invece è buona, ottengo una mela che è buona e inoltre è resistente ai parassiti. Ma tutti, diciamo, tutte le conseguenze di quello che vi sto dicendo non ne parliamo adesso, ne parliamo nel momento di dibattito a seguito delle presentazioni dei relatori. Quindi, in breve, vi ho detto che il DNA cambia, non è statico, cambia in ogni istante della nostra vita quando le nostre cellule si duplicano. Quindi se abbiamo una lesione, un taglio e si ripara, le nostre cellule duplicandosi sono cambiate. Cambia a causa di agenti esterni. Prendiamo il sole al mare, siamo esposti a ultravioletti, il DNA cambia di nuovo. Inoltre c'è questa enorme fusione tra due genomi diversi quando concepiamo un bambino o una bambina. E come cambiare il DNA? Il DNA cambia, possiamo cambiarlo, sfruttando questi fenomeni naturali, perché abbiamo scoperto che esistono e in che condizioni avvengono, e riprodurli in un laboratorio. Però alla fine sono comunque fenomeni naturali, non abbiamo modo di sfuggire alle leggi della natura. E questo è tutto e lascio la parola ai relatori. Grazie. Grazie a Gabriele Girelli per questa che è stata decisamente più che un'introduzione, e anzi devo dire che mi ha sgravato del compito di aprire i lavori, cosa che forse rappresenta la parte più difficile della moderazione di un evento, perché bisogna ricordarsi di chi ha organizzato, di chi ha fatto, di quali sono state le tappe precedenti, si fanno sempre gaffe, quindi lo ringrazio doppiamente per aver assolto a questo compito. E lo ringrazio anche per avermi chiesto di moderare questo incontro di oggi, nel quale appunto parliamo di OGM, e mi consente in questo modo anche di risollevare le sorti della categoria, forse se mi consentite la battuta, perché un po' di responsabilità anche nella disinformazione che c'è riguardo gli OGM è anche ad opera dei mezzi di comunicazione, e meriterebbe forse un approfondimento, un evento anche sul modo in cui i mezzi di comunicazione raccontano le materie, gli argomenti di carattere scientifico. Ma detto questo, OGM è un tema naturalmente che è particolarmente spinoso, anche più del tema che abbiamo affrontato l'anno scorso in questa stessa sala, quando parlammo del rapporto fra omeopatia e cosiddetta medicina tradizionale. Questo tema invece è ancora più spinoso perché mette in ballo un numero di interessi, e uso la parola non necessariamente nell'accezione negativa, mette in ballo un numero superiore di interessi, di preoccupazioni, di ansie, di idee, di schieramenti presi di posizione più o meno legittime. Quello che cercheremo di fare noi oggi, come ha detto appunto Gabriele, è di fare chiarezza, e lo faremo grazie all'aiuto di esperti del settore che provengono da strutture, enti che sono fiore all'occhiello del nostro territorio. Tra l'altro siamo ospitati in una struttura museale candidata tra le migliori d'Europa, che ha raggiunto traguardi più che ragguardevoli in termini di visitatori e qualità espositiva. Abbiamo appunto, come dicevo, persone al tavolo che provengono dall'Università di Trento e dalla Fondazione Edmund Mach, che rappresentano appunto strutture di assoluta eccellenza. Quindi insomma abbiamo tutti i numeri in regola, non parlo del sottoscritto naturalmente ma degli esperti, per parlare di questa tematica nel modo più esaustivo nei limiti dei tempi a disposizione. Ma naturalmente una parte fondamentale di questo incontro sarà il vostro coinvolgimento, perché i vostri interventi saranno strutturali rispetto al dibattito che faremo, coinvolgendo in particolare il professor Joss. Dunque, abbiamo al tavolo appunto, venendo ai nostri relatori, il dottor Eugenio Calicetti dell'Università di Trento, Dipartimento di Giurisprudenza, il dottor Riccardo Velasco della Fondazione Edmund Mach e appunto il professor Geremia Joss, Dipartimento di Economia dell'Università di Trento, che ho citato poco fa. E come procediamo? Beh, innanzitutto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando, come si suol dire, cioè quando parliamo di organismi geneticamente modificati siamo sicuri di sapere esattamente della questione di cosa stiamo parlando, appunto dal punto di vista giuridico, ecco. Tra l'altro qui subentrano anche i discorsi di carattere economico, etichette dei prodotti, biologico, non biologico, insomma temi che hanno a che fare anche con la nostra quotidianità, banalmente quando andiamo a fare la spesa, non sono tematiche che si affrontano solo quando si parla dei massimi sistemi nelle aule della scienza. Quindi io darei subito la parola al dottor Calicetti per affrontare un intervento dal titolo significativo Cibi in, tra parentesi, naturali secondo natura, perché un prodotto geneticamente modificato non può essere anche biologico. E cerchiamo dunque di capire con questo primo intervento appunto cosa sono esattamente, cosa possiamo chiamare o non chiamare organismi geneticamente modificati. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi permesso di prendere parte a questo evento che per un giurista è particolarmente importante. Perché? Perché in questo ambito del diritto l'interazione con la scienza è molto molto forte e molte volte come giuristi ci dobbiamo confrontare con nozioni tecniche che in verità non appartengono al nostro vocabolario. Di conseguenza ogni tipo di confronto è sicuramente utile anche e soprattutto per capire in che misura la norma è ben pensata, ben regolata, riesce a raggiungere un'efficiente regolazione dei fatti sociali che si vorrebbero e che il legislatore vorrebbe regolare. Il mio intervento non sarà interattivo, vi chiedo scusa, per altro verso cercherò di essere il più rapido possibile. In un primo momento cercherò di individuare e di definire, facendo riferimento alla direttiva 2001 del 18, cosa sia un organismo geneticamente modificato. Naturalmente abbiamo una definizione che è quella che determina l'ambito d'applicazione della normativa, partendo dal presupposto che poi questa stessa definizione viene ad essere acquisita in tutte le norme nazionali che implementano a livello sul fronte appunto interno il settore. Cercherò di individuare una definizione, facendo riferimento al regolamento 834 del 2007, una definizione di prodotto biologico, che in verità a sua volta è connesso con la nozione di metodo di produzione biologica. Cercherò in ultimo luogo di svolgere alcune considerazioni che saranno utili per rispondere alla domanda con la quale ho intitolato questo intervento, ossia perché non è possibile qualificare come biologico un prodotto, per esempio agricolo, geneticamente vegetale, geneticamente modificato. Un paio di premesse. La prima, io non svilupperò nella sostanza opinioni personali, nel senso che non mi sentirete assumere una posizione positiva o negativa rispetto all'utilizzo di organismi geneticamente modificati. Questo perché continuerò a ragionare e a discorrere come normalmente fanno i giuristi. Il compito del giurista in verità è quello di interpretare l'ordinamento sulla base di canoni di ragionevolezza e di sistematicità. Noi abbiamo un ordinamento giuridico che è un sistema, abbiamo una serie di interventi normativi e dobbiamo sapere che ogni intervento in verità va a modificare, modificando la parte va a modificare il sistema stesso. Il lavoro del giurista è anche quello di ritrovare l'equilibrio sistemico sul quale va a riposare un ordinamento giuridico a fronte di una modificazione posta in essere dal legislatore. Questo appunto sulla base di canoni di logicità e di ragionevolezza, di coerenza interna, coerenza logica interna degli dispositivi, come andremo a vedere poi con riferimento tanto al regolamento sul biologico quanto con riferimento alla direttiva sugli organismi geneticamente modificati, vi sono alcune questioni irragionevoli, problematiche, che appunto debbono essere affrontate a prescindere dal fatto che si sia o meno a favore dell'utilizzo degli organismi geneticamente modificati o dell'utilizzo del biologico, del metodo di produzione biologica. Una seconda considerazione. Noi oggi affronteremo delle definizioni, andremo a vedere delle definizioni legali, non potendoci per questo discostare da andare a leggere gli articoli, l'articolato. È naturale che ogni termine, ogni parola, anche quando utilizzata dal legislatore, in verità affonda le proprie radici semantiche in una comunità linguistica. È noto per i giuristi quanto fosse vista con sospetto l'utilizzo di una tecnica che utilizzasse definizioni giuridiche nel mondo romanistico, quindi appunto nel mondo tradizionale, sapienziale. Questo perché in verità la definizione irrigidisce l'applicazione della norma. Il fatto di far convogliare il senso semantico, il senso comune sul termine utilizzato in ambito giuridico fa sì che vi siano possibilità di manipolare il significato del termine cercando di corrispondere a quelle che sono le esigenze che provengono dal mondo dei fatti. Ultimamente si è avuto un fenomeno nel quale è sempre più frequente l'utilizzo di definizioni. Questo perché ci sono due fenomeni. Da un certo punto di vista si può pensare che la definizione legale sia quello strumento per mezzo del quale il legislatore cerca di costringere il mondo dei fatti, anche in maniera invasiva. Naturalmente nel momento in cui il legislatore dà una definizione sottrae per esempio ai giudici il potere di determinare il significato di quel termine. Questo primo fenomeno è da leggere all'interno di un conflitto fra Stato e corpi intermedi, oppure fra Stato e soggetti. Basti pensare all'invasività di un intervento normativo che definisca cosa sia morte o cosa sia matrimonio. Questo naturalmente per regolamentare, rigidire, controllare corpi sociali e vita individuale. Vi è un secondo fenomeno che è associato all'incremento esponenziale dell'utilizzo di definizioni legali. Il fatto che noi oggi ci muoviamo all'interno di un ordinamento integrato, europeo, che non riposa più su di una comunità linguistica. Quindi in verità noi abbiamo un ordinamento giuridico a fronte di molteplici comunità linguistiche. Questo rende sempre più necessario ricorrere all'utilizzo della definizione giuridica per garantire l'uniformità dell'ordinamento, l'uniformità dell'applicazione del diritto comunitario, con un'ulteriore precisazione. Ogni volta che noi andiamo a analizzare una definizione, possiamo ricavare attraverso uno scavo quasi archeologico un determinato bilanciamento di interessi che il legislatore ha fatto. E a maggior ragione, in verità, quando noi andiamo a analizzare questo conflitto che vi è fra Unione Europea e Stati nazionali, quello che andiamo a vedere, anche sul fronte definitorio, quello che andiamo a vedere è un conflitto fra interessi e fra divergenti interessi riconosciuti ora dall'ordinamento comunitario, ora dagli ordinamenti costituzionali. Proprio sulla minore o maggior convergenza di questi due assetti valoriali, si pensa alla Costituzione italiana o ai trattati, questa è una delle questioni che in verità non è mai stata completamente affrontata negli ultimi decenni. Insomma, questo perché in verità noi sappiamo che la Comunità Europea, l'Unione Europea, è nata come organismo finalizzato all'integrazione economica e i principi di libertà di concorrenza, eccetera, eccetera, sono sempre stati prevalenti rispetto a ulteriori finalità sociali. Non a caso la direttiva sugli organismi leggermente modificati ha ad oggetto la regolamentazione delle emissioni deliberate all'ambiente, da un lato, ma soprattutto delle emissioni in commercio di prodotti geneticamente modificati. Questo perché l'applicazione uniforme del diritto avrebbe permesso di creare un mercato europeo dei prodotti, ossia un unico procedimento in base al quale un prodotto sarebbe potuto vendere, commercializzare su tutto il territorio comunitario e anche utilizzare, in verità, seppur questa affermazione non sia del tutto veridica andando a analizzare la direttiva. Partendo dal regolamento 834 del 2007, molto rapidamente, produzione biologica. Come ho già detto, la nozione di biologico è connesso all'utilizzazione di determinate pratiche. Queste pratiche agricole implicano l'impiego di metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento tautologico. Chiedo scusa se leggerò l'articolato dei regolamenti e delle direttive, ma ribadisco, il lavoro dei giuristi consiste in questo, non si può prescindere dal testo. Articolo 4, principi generali. La produzione biologica si basa sui seguenti principi: la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici, praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legata alla terra e l'acquacoltura che rispetta il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca, escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati ottenuti da organismi geneticamente modificati, ad eccezione dei medicinali veterinari. Possiamo già vedere qua in verità una piccola deroga. Lo stesso articolo 4 poi prende in considerazione una serie di deroghe in base alle quali si possono utilizzare anche fattori di produzione biologici esterni al sistema e in alternativa si può ricorrere anche a prodotti in verità ottenuti attraverso sintesi chimica, questo peraltro attraverso processi specifici di autorizzazione. Quindi vi possono essere effettivamente prodotti biologici sui quali sono stati applicati prodotti di sintesi. L'unica questione è che vi sia un'autorizzazione a monte che permette l'utilizzo di tali prodotti sintetici anche a produzioni biologiche. Anche in termini giuridici già questi principi sono alquanto vaghi, bisognerebbe capire in verità di cosa si parla quando si parla di sistemi ecologici. Sono nozioni estremamente vaghe e il più delle volte non si può sempre fare affidamento su nozioni che provengono da altre scienze, da altre discipline. Un altro elemento appunto è quello da notare, il fatto che si escluda l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, ossia nel momento in cui utilizzo organismi geneticamente modificati non posso commercializzare un prodotto come biologico in termini legali. Questo divieto generale peraltro riaffermato nell'articolo 9 del medesimo regolamento. A questi principi generali si associano una serie di norme che indicano una serie di procedimenti, di tecniche che possono essere utilizzate, oltre alle norme generali di produzione, affinché si possa qualificare un prodotto come biologico, occorre che si impieghino tecniche di lavorazione del terreno e pratiche culturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, la protezione di suolo, la protezione della biodiversità, che si attui una rotazione pluriennale delle colture che permette la rigenerazione della fertilità dei suoli, si fa divieto dell'utilizzo di concimi minerali azotati, si faccia riferimento in via generica a metodi di produzione che limitino l'inquinamento ambientale. E ultima questione, il fatto che la prevenzione dei danni provocati dai parassiti sia attuata attraverso la protezione dei nemici, dei loro nemici naturali. Anche in questo caso vengono previste una serie di eccezioni per cui è sempre possibile l'utilizzo di prodotti fitosanitari in determinate condizioni o utilizzo di prodotti per la disinfezione, questo qualora a fronte di una pregressa autorizzazione. Dovendo riassumere quanto abbiamo visto, potremmo dire che la nozione di biologico è naturalmente legata alla nozione di produzione biologica, che la produzione biologica è un metodo di coltivazione orientata ai principi di autosufficienza, con il reperimento di fattori di produzione in loco all'interno di un sistema ecologico, anche se non risulta chiaro quale sia il confine di tale sistema ecologico. In secondo luogo, l'agricoltura biologica è un'agricoltura che promuove la protezione delle matrici ambientali, suolo, biodiversità, risorse idriche, quindi che limita l'impatto avuto che ha normalmente l'agricoltura convenzionale rispetto a tali matrici ambientali, che non utilizza organismi geneticamente modificati e che utilizza prioritariamente fattori naturali e a loro volta biologici, non prodotti per sintesi chimica. Quello che vorrei sottoporre alla vostra attenzione in verità era un'ulteriore parte che non abbiamo visto dell'articolo 12 riferito alle norme sulla produzione vegetale. Per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo la pianta madre da cui si provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione. Questa norma in verità, dopo una lettura attenta, presenta dei problemi che in verità vanno a mettere sotto scacco la stessa definizione di biologico. Questo perché? Perché si attua una discriminazione fra situazioni che sono nella sostanza analoghe. Noi abbiamo una pianta coltivata per una generazione con metodo biologico, ma non proveniente da sementi biologiche, che non dà origine a prodotti biologici. Per altro verso ne abbiamo una pianta coltivata secondo metodo biologico ma proveniente da sementi biologiche che dà origine a prodotti biologici. Vi è una discriminazione sulla base del materiale di provenienza, anche se in verità la nozione di biologico contenuta nello stesso regolamento fa riferimento unicamente a metodi di produzione. C'è uno sfasamento sul livello logico sul quale si ragiona. Non vi sarebbe motivo di dover discriminare le piante, i prodotti originati attraverso procedimenti biologici, ma che non sono generati da sementi biologiche. Questo naturalmente è un problema in termini di ragionevolezza della normativa e sulla base di quanto dice appunto questa parte dell'articolo 12 noi possiamo affermare che non tutto quello che è biologico, ai sensi della definizione, può essere considerato legalmente biologico. Quindi abbiamo appunto un problema interno che ci dice anche qualcosa su come in verità funzionano le definizioni legali. Seconda questione. Prego. Allora, io ho un albero che adesso in verità dirò, allora un grano Meglio, perché ragionavo sugli esempi, so che era già scivoloso. Allora, se io ho una pianta di grano che coltivo con metodi biologici, io otterrò delle chicche che potrò vendere come sementi biologiche, ma non potrò vendere come prodotto biologico destinato alla produzione di farina. A differenza di quelle sementi invece che sono generate ab origine da prodotti biologici, sono certificate biologiche che vengono sottoposte alle medesime tecniche e che io posso vendere come prodotto biologico. Ma la nozione di biologico è riferita solamente al processo di coltivazione. Non vi sarebbe ragione alcuna all'interno della logica e della definizione, la logica definitoria contenuta nel regolamento, per discriminare se il punto fondamentale è quello del metodo di produzione. Non vi sarebbe necessità e neanche possibilità di discriminare fra i prodotti sulla base dell'origine biologica o non biologica del materiale a partire dal quale si è poi coltivata la pianta. Questo perché, io adesso non vorrei essere lungo, perché lo sfasamento sui piani logici è molteplice. Perché? Perché in verità noi, quando pensiamo a biologico, pensiamo ad uno standard di prodotto, è naturale. Questo in verità non ha nulla a che vedere, cioè la nozione di biologico non ha nulla a che vedere con, in termini legali, con la qualità del prodotto, perché quello che è rilevante sono le modalità di produzione. Noi possiamo avere un prodotto biologico che è coltivato in un luogo, seppur con tecniche biologiche, in un luogo che rende tale prodotto assimilabile ad un prodotto, in termini di contaminazione, di assimilabile ad un prodotto che non può essere venduto come biologico. Quindi la nozione di biologico opera su metodi di produzione che hanno un riflesso indiretto, naturalmente, su qualità di prodotto, anche se questo è un elemento che non viene contemplato e preso in considerazione dalla legge. Oddio, questa mi preoccupa. Non sono avvocato, ma prego. È che non viene registrata, signora. Non so se dovrà firmare liberatorie. Le normative sono nuove, perché mi sono laureata nel 2005. No, ma ad esempio la calmatura è una tecnica agricola. La, prego? Calmatura. Ok. Non è trentino, mi sa. Ok. L'innesto, bravissimo, scusi, forse calmatura è dialettale. Io ho la mia pianta di pesco perfettamente biologica, accertata, magnificata. Taglio un ramo, adesso neanch'io nei dettagli so fare, allora, gli innesti li sanno fare meglio. Okay. Meglio io penso di aver già capito il punto. In verità, se penso che il pesco possa essere qualificato come cultura permanente. Aspetti. Prego. Il prodotto dell'innesto della calmatura è biologico per voi? Allora, per me sì. In verità penso che si faccia riferimento all'ipotesi di coltura permanenti, per cui occorre che vi siano due cicli vegetativi completati. Ma cicli vegetativi di quale pianta? Quella prendo l'innesto? Della pianta in sé, a prescindere che sia innestata o meno. Cioè il fatto di sottoporre per due cicli vegetativi a una pianta a metodi biologici fa sì che quella pianta possa essere qualificata come biologica. Io ho un noce che avrà 94 anni. Ok. Prendo un ramo di quel noce biologico. Lo innesta su un altro noce? No, l'innesto non si può fare su un altro noce. No, okay. No, l'innesto viene fatto, ad esempio, su un albero di pesche. Non ci credo niente. Sì, e dà le noci. Allora, conosco solo io la calmatura. Però la questione fondamentale in termini giuridici è che se il noce da cui preleva l'innesto era biologico, io penso che in verità questa qualificazione permane anche a fronte dell'innesto, a partire dal momento in cui i frutti vengono ad essere... Abbiamo che lo coltivi come biologico, sì, a prescindere, anche se non viene da, anche se non viene da biologico, lei la pianta innestata sulla quale ha fatto l'innesto dovrà aspettare 2 anni, sottoporla al metodo di produzione biologica e ottenere la certificazione, perché a quel momento potrà qualificarla e metterla sul mercato come biologica. Prego, professor Joss, prego, voleva intervenire. Chiedo scusa, io non sono un giurista, ma alcune cose. Allora, innanzitutto, gli innesti possono essere fatti solo su piante affini. Quindi lei... un noce sul noce e una pesca. È una sabotatrice. Su qualcosa. Però il problema è una sabotatrice. Dal punto di vista della certificazione biologica, se lei parte da pesche che sono certificate biologiche e ottiene in vivaio, il vivaio è certificato dal punto di vista biologico e quindi ottiene piante che sono certificate e può utilizzare per la produzione di pesche biologiche. Se lei invece prende una gemma del pesco che stava lì e non è mai stato trattato e che quindi risponde a tutte le caratteristiche che la produzione biologica deve avere e la innesta seguendo tutte le altre caratteristiche dette in precedenza, ma non parte da una pianta certificata come biologica, allora di nuovo non può venderla come pianta biologica. Può partire da quella nuova pianta per, dopo l'apposito ciclo, arrivare a piante biologiche. Allora, in pratica, quello che io vorrei dirle è che la definizione legale è non tiene solo parzialmente, come molte delle definizioni legali, è estremamente conservativa e quindi mette l'accento non tanto sulla qualità del prodotto o sulle modalità, quanto sulle procedure utilizzate. E succede, io mi chiedo scusa al collega qui di giurisprudenza, ma tendenzialmente nella logica del diritto l'accento viene sempre messo sulle procedure. Nella logica del legislatore. Cioè, va bene. Non voglio. Allora, gli step necessari sono di questo tipo, quindi sono indipendenti dal. Quindi se lei da sé fa quel lavoro, non ha una pianta coltivabile, vendibile, perché ecco, deve fare due cicli, per cui il primo ciclo fa così, il secondo ciclo ha acquisito la certificazione e al terzo albero di pesco con cui ha a che fare può vendere le pesche come biologiche. Lei faccia l'altra domanda. No, non avevo capito bene per quanto riguardava la slide che aveva fatto vedere della sintesi chimica. Sì, no, l'ha fatta vedere. Sintesi chimica, l'uso di... Sintesi chimica. Sì. Se ci torniamo su, che così... No? Eccola. Possibilità in via derogatoria di avvalersi primariamente di fattori di produzione biologici esterni e secondariamente di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica. E questo viene definito, come l'ha definito lei, naturale. Non naturale, biologico. Biologico. Okay. Allora la mia domanda è, sì, per sintesi chimica io riesco, perché riesco, a sintetizzare la molecola della caffeina. E questo allora viene riconosciuta, la mia caffeina, che quindi faccio il caffè. Io penso che in verità i fattori ottenuti per sintesi chimica sono tutti quei processi, quei prodotti, fertilizzanti, pesticidi. Dice, allora chiedo scusa, io non dovrei intervenire ma perché non sono neanche un grande esperto, ma è necessario cercare di capirsi sui termini. Fattori di produzione sono gli input del processo di produzione, quindi gli input del processo di produzione sono il sole, il terreno, il concime, l'antiparassitario e simili. E la normativa comunitaria non si esaurisce in sé, quindi la normativa comunitaria dice di solito, nella maggior parte dei casi, eccetera, eccetera, per coltivare in maniera perché un prodotto ottenuto si possa definire biologico, devono essere utilizzati come fattori di produzione e quindi come per difendere la pianta dai parassiti, per fare il caso più noto, fattori che non derivano da sintesi chimica. Ci possono essere alcune eccezioni. Queste eccezioni vengono normate a livello di norme di produzione, cioè quando lei acquisisce un prodotto biologico, i principi sono codificati dalla direttiva, ma le modalità concrete sono codificate da un ente di certificazione. Questo ente di certificazione può essere Biodino o qualsiasi altra cosa, il quale specifica nelle istruzioni per coltivare se lei può usare la caffeina chimica, non per farsi il caffè, ma per trattare contro, non so se serva, perché su questo sono assolutamente ignorante, ma supponendo che serva la molecola di caffeina contro le formiche rosse e non ci sia nessun altro prodotto che tiene a bada le formiche rosse nella coltivazione delle pesche precedenti, allora all'interno delle regole di coltivazione, alla fine rispettando le quali e essendo sottoposti ai controlli, lei può dichiarare pesche biologiche, sarà previsto che può fare un trattamento con una caffeina di sintesi, supposto che insomma, invece che con la caffeina estratta, non che con la caffeina normale. Di solito queste eccezioni vengono utilizzate quando non ci sono l'equivalente di prodotti naturali. Allora ci possono essere delle situazioni in cui, per esempio, il caso ancora gli insetticidi, ci sono una serie di prodotti naturali che derivano dalla pianta del piretro, che è una sorta di grisantemo. E allora in questo caso lei non troverà mai che si può utilizzare il DDT, ma se per, supponiamo, un qualche aspetto particolare non ci fosse nessuna sostanza naturale, allora è consentito in via eccezionale, ma non sulla base della volontà di chi coltiva, ma sulla base di una disciplinare di produzione, utilizzare qualcos'altro. Va specificato, cosa che spesso non è chiara, che i disciplinari di produzione nel caso del biologico, come in tutti gli altri casi in cui si ha certificazione, e apro una parentesi, la certificazione è qualcosa diversa dalla norma perché è un atto volontario, mentre la norma è cogente e uno è obbligato a rispettarla, la certificazione è un atto volontario in cui io mi sottopongo al controllo di un ente terzo per garantire al prossimo che ho rispettato certi principi, certe azioni. Ecco, allora la certificazione anche nel campo del biologico, i diversi sistemi di certificazione non sono tutti uguali, quindi alcune cose che in alcune coltivazioni biologiche che danno il marchietto di biologico sono consentite, in altre no. Così come non sono uguali le legislazioni derivate dalla normativa comunitaria a livello dei singoli paesi. Chiedo scusa. Grazie. Dottor Calici, ti aveva paura di non avere un intervento interattivo, ma mi pare che insomma... Sì, oddio, non per merito. Abbiamo anticipato il dibattito invece. Tenendo in considerazione che lo stesso regolamento comunque prevede le procedure in base alle quali possono essere autorizzati l'uso in via eccezionale di appunto prodotti di sintesi chimica che poi vanno a sostituire o che possono essere utilizzati anche per produzioni biologiche. Un'altra domanda. Non arrivi. Prego. Tipo se io do un'autorizzazione per il pesco, questa autorizzazione si estende anche ad altre piante o solo per la... Ecco, magari rispondiamo a questa domanda e poi magari vi invito a tenere le domande per la seconda. No, questa rispondiamo ormai magari, ma dopo vi invito a tenere le cartucce pronte per la seconda parte dell'evento. È relativa a un solo evento, è relativa a un solo tipo di coltivazione e anche in certe condizioni, quindi non sono generalizzate. Ok, ripartiamo in verità da dove, anche qui vedrò di chiudere in estrema. Cosa ci dice la direttiva 2001 del 18, che è appunto quella direttiva che ha d'oggetto l'autorizzazione, che ha d'oggetto l'emissione di liberate in ambiente di organismi geneticamente modificati e l'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati. La definizione è contenuta nell'articolo 2, che definisce come OGM un organismo diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e o la ricombinazione genetica naturale. Questa è una definizione generale che in verità viene ad essere integrata da un allegato, per cui che fa leva, fa perno sulla nozione di modificazione genetica che è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato 1A, parte prima. Qua possiamo vedere appunto un elenco casistico che non è esaustivo, in quanto, come si può leggere, le tecniche di modificazione genetica comprendono, tra l'altro, questo ci fa capire che insomma non è possibile che vi siano delle ulteriori tecniche non menzionate in questo allegato che possono dare origine a organismi geneticamente modificati. Possiamo ritrovare le tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento di un virus, eccetera, eccetera. Poi in verità queste sono nozioni che debbono essere integrate naturalmente da scienze biologiche. Seconda tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno. Fusione cellulare o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile mediante la fusione di due o più cellule utilizzando metodi non naturali. Il fatto che questi procedimenti siano non naturali è qualcosa che rimane sullo sfondo, anche se in verità noi abbiamo una serie di deroghe in base alle quali l'utilizzo di tecniche, a questo punto che noi potremmo definire naturali, comportano l'esclusione dell'applicazione della normativa, cioè quelle tecniche non producono modificazione genetica e di conseguenza non producono organismi geneticamente modificati. Queste deroghe sono le tecniche menzionate nell'allegato 1A, parte seconda, e le tecniche menzionate nell'allegato 1B. Allegato 1A, parte seconda, queste sono tecniche che non danno origine a organismi geneticamente modificati, processi di fecondazione in vitro, processi naturali, quello della coniugazione, la traduzione, la trasformazione, induzione della poliploidia. Tecniche di cui allegato 3, quelle che appunto non comportano modificazione genetica. Mutagenesi, la fusione cellulare. Abbiamo già visto che la mutagenesi è un processo, come ci è stato detto nell'introduzione, che per altro verso induce artificialmente, voglio dire, una modificazione nel DNA attraverso l'irradiazione. È una tecnica naturale? Quello che vorrei sottoporre alla vostra attenzione adesso è una lettura un pochettino più articolata di questo stesso allegato. La formulazione qual è? Le tecniche e i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinanti o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito, sono la mutagenesi e la fusione cellulare. Potrete vedere che l'articolazione è particolarmente complessa e oltretutto anche grammaticamente probabilmente non corretta, nel senso che noi avremo un inciso che non è segnalato da virgole. Andando a manipolare il testo e cercando di renderlo più intelligibile, ne potremo elidere tutto quello che in verità è un inciso. Le tecniche e i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, per cui non siamo di fronte a organismi geneticamente modificati, sono la mutagenesi, la fusione cellulare di cellule vegetali e di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di produzione tradizionali, anche se, in verità, sostituendo il non all'anche se, cioè anche se a condizione che, sostituendo il non con diversi e non diversi. Quindi anche se comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinanti di organismi genuinamente modificati, non diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito, ossia la mutagenesi e la fusione cellulare. Questa è una modalità attraverso l'applicazione di canoni di logica per rendere più chiaro il significato della norma. Quindi in verità l'allegato 1 B ci dice che noi potremmo utilizzare anche organismi geneticamente modificati, se non diversi da quelli che si potrebbero produrre attraverso mutagenesi o fusione cellulare, e utilizzarli in ulteriori processi, step, che utilizzando mutageni, cioè fusione cellulare, produce degli organismi che non sono geneticamente modificati. Questo attraverso una lettura articolata, secondo canoni di logica, di quello che era una formulazione tendenzialmente criptica. Questo per dire che, come non tutto quello che è biologico può essere qualificato, che dovrebbe essere qualificato come biologico a senza della definizione, non può esserlo in termini legali, allo stesso modo non tutto ciò che dovrebbe essere qualificato come OGM è legalmente in verità un OGM. Io capisco che poi il mio intervento sarà stato anche noioso e probabilmente va a toccare poco tutti i fenomeni sociali, economici. Quello che però in verità mi premeva sottolineare è fare un ragionamento sulla funzione delle definizioni. Il diritto in verità ci dice gran poco, perché poi in verità va a a fare riferimento a una serie di nozioni scientifiche, tecniche, e probabilmente maneggiandole anche in maniera scorretta, o per altro verso maneggiandole volontariamente in maniera scorretta per creare o per scardinare in qualche misura la rigidità riposta in una definizione legale. Io non so in verità questo cosa possa significare, ossia per quale ragione sia stato introdotto attraverso questa formulazione la possibilità di sottoporre un organismo geneticamente modificato a determinate procedure, ammettendo che l'esito di questo processo possa essere non qualificato organismo geneticamente modificato. Questo bisognerebbe chiederlo a un sociologo, a un politico e tendenzialmente a un tecnico. Ulteriori considerazioni super rapide, sempre che devono essere sviluppate, possono essere sviluppate a partire da un punto di vista giuridico. Che ragionevolezza vi è nella discriminazione fra tecniche di combinazione del DNA ricombinante e mutagenesi? Noi siamo di fronte probabilmente a fenomeni analoghi, con la differenza che a fronte dell'utilizzo del DNA ricombinante noi abbiamo in qualche modo la possibilità di controllare le modificazioni, cosa che invece non è permessa nella mutagenesi, che funziona a casaccio e che è stato utilizzato per anni senza che peraltro si utilizzassero tutte quelle precauzioni, quelle procedure precauzionali utilizzate oggi per testare organismi geneticamente modificati. Altra questione, illogicità di quella norma che prevede l'impossibilità di qualificare o di certificare come biologico di un organismo geneticamente modificato. I piani sono completamente differenziati, noi abbiamo nozione di biologico a che vedere con metodi di produzione. OGM noi abbiamo a che vedere con tecniche che danno origine a prodotti che potrebbero e potrebbero essere sottoposti ad un metodo di coltivazione biologica. Abbiamo due piani appunto logicamente non coerenti, e questo sicuramente è esempio di come poi il dibattito pubblico in verità può inquinare, può forzare, può fare pressioni sullo stesso legislatore che nella secondaria tale pressioni va a introdurre delle norme irragionevoli, pur sapendo però che in verità la ragionevolezza e la logicità interna di un ordinamento giuridico sono limiti interni costitutivi all'esercizio della potestà legislativa. Questo era quanto in verità volevo dirvi, dopo insomma penso che vi sarà ampio spazio per discutere poi in verità se la regolazione attuale degli organismi, dell'uso e della commercializzazione degli organismi geneticamente modificati sia da condividere o meno, o per altro verso se presenti degli ulteriori punti di criticità. Vi ringrazio. Grazie dottor Calicetti, devo dire che ora capisco perché tanti miei colleghi, senza peraltro generalizzare, ma poi prima la mia era più che altro, anzi era esclusivamente una battuta, capisco perché i miei colleghi non comunicano sempre bene le materie scientifiche, perché districarsi in questo panorama anche solo sul piano giuridico, senza prima ancora di entrare in quello scientifico che ovviamente si intreccia con quello giuridico dal punto di vista dell'articolato di legge, però ecco, mi rendo conto perché a volte, ripeto, senza generalizzare, ma all'interno della categoria dell'informazione e dei giornalisti c'è chi sbaglia, c'è chi non comunica in modo efficace. La legge sulla stampa e sull'editoria per fortuna mia è molto più semplice, però ecco, ci voleva questo inquadramento che ci fa capire, come ha detto peraltro lo stesso dottor Calicetti, insomma, che poi alla fine più la legge è complessa, più la normativa è complessa e più si presta anche a maneggiamenti, se così possiamo dire, ma ne parleremo più diffusamente dopo. E dopo il quadro giuridico cerchiamo di capire ora qual è lo stato dell'arte degli OGM, cioè quali sono le potenzialità presenti e anche quelle future, perché spesso le preoccupazioni, il dibattito che accompagna la questione appunto delle modifiche genetiche richiama agli scenari futuri ed è lì che va a finire la preoccupazione della comunità. Non entro nel merito se sia una preoccupazione lecita o meno, questo lo lasceremo valutare a voi con l'aiuto dei nostri esperti. E darei quindi la parola al dottor Riccardo Velasco della Fondazione Edmund Mach, appunto per capire a che punto siamo e dove stiamo andando con gli OGM. Prego. Beh, intanto grazie per l'invito e per l'interessante dibattito che ha già preso parte e già preso luogo, già iniziato durante la presentazione del collega e che sicuramente seguirà. Io vi ho portato, di fatto, vi indico anche il sito internet dove andare a scaricarvi, in realtà ce ne sono una trentina di queste lezioni della una professoressa emerita dell'Università della California, Peggy Lameau, che di fatto si è presa la briga di presentare in internet sue lezioni fatte a Berkeley ed altre parte in California, dove ovviamente la questione GMO più che dibattuta è più o meno accettata in qualche modo, perché il mondo di fatto si divide un po', vedremo poi in seguito su alcune delle slides che mi sono permesso di presentare, comunque sono libere in internet per cui potete scaricarle anche voi, condendo poi alla fine con un paio di slides mie lo stimolo al dibattito. La questione appunto del mondo un po' suddiviso in due parti, una parte del mondo che coltiva OGM da una ventina d'anni, una parte del mondo che resiste, tra queste l'Europa, non tutta l'Europa, vedremo in realtà comunque una buona parte. Allora, durante la presentazione, qui è giustamente la lezione della professoressa, presenta appunto quello che è un minimo di background e poi va subito al sodo sul quali sono gli organismi geneticamente modificati commercializzati, cosa c'è nella pipeline, cioè cos'è che sta arrivando, quali sono appunto le strutture regolatorie, appunto per quanto riguarda quantomeno gli Stati Uniti, poi qualche altra pillola per quanto riguarda il resto del mondo, che è molto molto US-centrico questa presentazione, per cui non vi stupite. Quali sono appunto gli argomenti più importanti sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi che siano appunto geneticamente modificati e poi quali sono le conseguenze per l'ambiente o quali sono quantomeno i timori per quanto riguarda l'ingresso dell'ambiente. Abbiamo visto già precedentemente, quindi non mi sto a dilungare, sul fatto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del materiale di riproduzione, quindi del DNA, il materiale che contiene le informazioni di ogni individuo che permette poi all'individuo di essere quello che è. I cromosomi sono la sede naturale dei geni, che sono altro che una piccola percentuale di questa informazione genetica contenuta all'interno degli acidi disossidribonucleici, quindi il DNA. Veniamo poi alla parte agraria, no? Noi abbiamo parlato di manipolare i cromosomi o manipolare i geni, ma in realtà, come abbiamo visto in precedenza, quello che esiste oggi è frutto di un'evoluzione, sia dal punto di vista degli animali e delle piante, di quello che è stata la storia degli esseri viventi sulla Terra. E se andiamo a guardare quello che era il Triticum monotocum che si apprestava a coltivare l'uomo che ha smesso di essere cacciatore, è diventato stanziale circa 11.000 anni fa, quando è iniziata l'agricoltura, il Triticum estivum, che è il grano coltivato oggi per fare il pane, vediamo che pur essendo imparentati, in realtà uno contiene un solo genoma, l'altro tre genomi dello stesso Triticum monococcum e di altri Triticum, o di Agilops, comunque specie affini, quindi anche diciamo sessualmente compatibili, nell'evoluzione dei grani ovviamente quello che c'è oggi è qualcosa che è evoluto enormemente soltanto negli ultimi 10.000 anni. E questa informazione dove è contenuta? È contenuta appunto all'interno del genoma, che può essere rappresentato come un libro dove le lettere e l'alfabeto rappresentano appunto il testo di questo libro. Ci sono circa pagine, x parole, ovviamente a seconda di quale organismo stiamo parlando, nell'incrocio naturale, mamma e papà, abbiamo visto prima, ci sono appunto due corredi cromosomici aploidi, cioè la metà di quello che sono i corredi cromosomici delle cellule che costituiscono il nostro corpo, tranne le cellule seminali, che al momento di cellule, allo stadio di cellule seminali si uniscono e confondono le loro informazioni in un individuo che è una sorta di mix dei due e quindi mescolano le loro informazioni genetiche creando praticamente un individuo che non ha niente più del pad della madre, o meglio è la sintesi del 50% dell'uno e del 50% dell'altro. Due individui fratelli sono abbastanza diversi, pur simili, perché contengono una parte di informazione condivisa e una parte di informazione che è unica dei due, perché è ereditato o solo dalla madre o solo dal padre. E qui veniamo a quello che è stato un po' la crescita della, per esempio, la produzione di wheat, grano, corn, il mais e soybean, la soia. Negli Stati Uniti, diciamo un po' alla rivoluzione verde che ha caratterizzato un ventennio circa, un decennio, ventennio dagli anni 30 agli anni 50, con quello che avevamo visto prima essere un trattamento considerato naturale, perché oggettivamente i raggi ultravioletti sono anche in natura, raggi gamma sono anche in natura, quindi bombardamento con raggi gamma o raggi X di queste piante ha portato alla selezione da parte dell'uomo di quelle piante che bombardate o trattate con sintesi, con prodotti di sintesi e mutageni chimici a modifiche del DNA di alcune di queste specie, creando così alcune varietà un po' particolari che hanno portato per esempio alla nanizzazione dei grani, che una volta erano alti 1,20 m, 1,50 m e oggi sono 50-60 cm, hanno moltiplicato il contenuto proteico, hanno aumentato il contenuto in amido, hanno aumentato anche la produttività. Ovviamente poi anche le tecniche culturali hanno contribuito molto altro, però quantomeno molte nuove varietà sono state ottenute con questi metodi che, a differenza degli OGM, sono di stravolgimento dei cromosomi, perché sono grandi delezioni, grandi inserzioni, grandi traslocazioni e eliminazioni di grandi fette di quei cromosomi che vedevamo prima, che nonostante ciò hanno, se fatti diciamo con trattamenti molto limitati e molto ridotti, prodotto alcune nuove varietà che sono poi tutto quello che è coltivato oggi. Se, rispondendo alla domanda del collega appunto dal punto di vista giuridico, oggi considerassimo mutagenizzate e quindi, cioè, tutto ciò ottenuto per mutagenesi chimica o comunque con i raggi, quindi fisica, le varietà ad oggi coltivate dovremmo togliere dalla coltivazione, dal mercato, oltre il 90-95% del materiale che viene utilizzato attualmente. Quindi ovviamente dagli anni 50 ad oggi molto è stato ottenuto di miglioramento genetico tramite stravolgimenti dei cromosomi e molto di quello che è ottenuto ovviamente è salvaguardato dal punto di vista legislativo, perché dichiarato non OGM. Oggettivamente gli OGM sono, tra virgolette, nati dal momento in cui l'uomo è stato in grado di manipolare in maniera mirata il DNA ricombinante, dalle tecnologie del DNA ricombinante con gli enzimi di restrizione e tutti gli enzimi che manipolano il DNA all'interno della cellula naturalmente in provetta, da lì è nata la necessità di legiferare e controllare, ovviamente giustamente, tutto ciò che l'uomo aveva imparato a fare in maniera molto più mirata, non più casuale attraverso la mutagenesi chimica che avviene anche tramite i raggi solari, ma mirata in maniera diciamo focalizzata su un singolo gene o pochi geni. Di fatto quel miglioramento che abbiamo visto nella produttività ha portato da una necessità, per esempio, fatto a superficie in ettari o in acri coltivati negli anni 20, negli anni 30, alla stessa produzione su un quantitativo di terra molto inferiore, oppure, volendolo vedere da un altro punto di vista, stante la stessa quantità di superficie coltivata, a una produzione 10 volte superiore. Questo tutto, diciamo, tra virgolette, naturalmente, non attraverso gli OGM. E un'evoluzione ulteriore con le competenze, diciamo, attuali sulla genetica molecolare è quello di poter predire quelli che saranno i figli migliori in un incrocio naturale tramite marcatori molecolari, cioè vedere, predire quali sono stati i settori di genoma ereditati dai figli e selezionare con largo anticipo, prima di andare a vedere in campo quali saranno le piante migliori, attraverso una predizione di quale parte del genoma è stata ereditata dalla mamma e dal papà, se sono state ereditate le parti, tra virgolette, giuste, quelle volute, quindi il colore rosso della buccia, piuttosto che la quantità di amido molto elevata, o la quantità di proteine molto elevata, la quantità di vitamine molto elevata, quelli che sono, oppure una resistenza genetica a un patogeno, quelli che sono i caratteri che a noi da agronomi interessano, si possono scegliere i figli, semi ovviamente, non stiamo parlando di animali, anche se ovviamente è applicato anche agli animali da produzione, quelli che sono i migliori con largo anticipo. E tutto questo è assolutamente lecito, nel senso che è l'utilizzo delle competenze di genetica molecolare per poter predire e quindi supportare il miglioramento genetico naturale. E questo ha portato alla soluzione di molti problemi, per esempio la selezione di materiali che hanno piante selvatiche introgredito all'interno delle piante coltivate tramite incrocio, perché sessualmente compatibili, determinate caratteristiche, per esempio di resistenza a certi patogeni che possono portare a una distruzione del raccordo addirittura totale. Però ovviamente è limitato alla compatibilità sessuale, al fatto che ci possono essere molte generazioni in mezzo di reincrocio per poter ottenere alta qualità insieme a quel singolo carattere. Ovviamente quello che hanno portato di novità agli OGM è stato quello di poter introdurre un solo gene o un solo carattere o pochissimi geni per modificare una sola caratteristica lasciando intatte tutte le altre. Se io voglio ottenere un Cabernet Sauvignon da una vite coltivata che sia Cabernet Sauvignon resistente a una malattia, se sono così fortunato da conoscere qual è il gene di resistenza a quella malattia, posso inserirlo facendo una pianta cisgenica, perché ovviamente viene la resistenza da un'altra vite selvatica, ma sempre vite, e ottenere un Cabernet Sauvignon assolutamente identico a quello coltivato in più con la resistenza genetica. Questo però, per definizione, per legislazione, è un OGM, perché pur distinguendo noi transgenico quando arriva da un'altra specie, dal cisgenico se il gene arriva dalla stessa specie, essendoci un'attività di DNA ricombinante, un passaggio attraverso l'Agrobacterium tumefaciens che in colture in vitro riesce a inserire del DNA esogeno, pur essendo di vite, ma esogeno come altri pezzetti di DNA che si trasporta il batterio all'interno della pianta e rigenerare una pianta pur di Cabernet Sauvignon quasi identica al 99,99%, identica al precedente, ma c'è un passaggio di metodo, di procedura geneticamente modificata, e quindi anche se è cisgenico è un OGM. Non ci sono vie per aggirare questo aspetto tecnico e legislativo, ed è giusto che sia così. Non si può diciamo menar per il naso il consumatore dicendogli ma il gene viene dalla vite e sempre vite è, sempre Cabernet Sauvignon al 99,9% come il precedente, ma c'è un passaggio pratico che modifica, pur in maniera mirata, il DNA di quella varietà. Quindi non ciurliamo tanto il naso al consumatore, quella è una pianta OGM. E ciò non toglie che possa essere una pianta utile, ma è OGM. Quindi abbiamo detto che, prendendo per esempio una mezza paginetta di questo libro che corrisponde alla sequenza di un gene inserita nella pianta che avete sulla vostra sinistra, nel genoma della pianta della vostra destra, è lo stesso genoma più un gene. Non c'è molto da aggiungere, sono 1000, 2000, 5000 nucleotidi in più sui 500 milioni della vite, 3 miliardi in un'altra specie, 16 miliardi nel grano di nucleotidi. 1000 nucleotidi sono una piccolissima parte, ma può avere altre conseguenze, quindi che non possiamo ignorare. Quindi quale differenza c'è tra il breeding tradizionale e l'ingegneria genetica? Di fatto usiamo nel breeding tradizionale, che è quello che facciamo anche a San Michele all'Adige, polline su fiore, usiamo la pianta come macchina, no? Come strumento per produrre nuove piante. ingegneria genetica usiamo il laboratorio. In provetta inseriamo all'interno di una cellula, di una pianta che conosciamo, che di cui conosciamo tutte le caratteristiche positive, un gene o qualche gene proveniente dalla, sempre da un'altra varietà di vite che però presenta una resistenza genetica. A questo punto abbiamo in laboratorio ottenuto una singola cellula trasformata che darà origine a una rigenerata pianta, sempre di Cabernet Sauvignon, ma comunque diversa da quella iniziale, perché ha un gene in più, ottenuto in provetta. Nella breeding classico c'è uno scambio del 50% tra i due genitori di DNA, nel caso appunto della trasformazione genetica un solo gene viene inserito in un genoma preesistente. Il breeder non controlla ovviamente il miglioramento genetico, non sa quale parte del genoma di mamma e papà si congiungono, spera che si congiungano quelle che lui vorrebbe. Vantaggio nelle piante, per esempio, che si possono ottenere progenie pressoché infinite, no? Decine e decine di migliaia di figli ogni anno dagli stessi genitori, ovvio che nel caso degli animali non è altrettanto fortunato il caso, perché non si possono certo ottenere gli stessi numeri, quindi il miglioramento genetico da certi punti di vista è vantaggiato nelle piante. Nel caso in cui invece l'ingegneria genetica inserisce un singolo gene, pur non sapendo in quale cromosoma andrà a finire e dove, e lì diciamo cominciano le eccezioni, cominciano i dubbi sulla opportunità di utilizzare certe tecnologie, perché non sappiamo in quale parte del genoma va a finire e non sappiamo che cosa va a modificare. Quindi dal punto di vista dei controlli necessari è assolutamente più che giustificato, dovuto al fatto proprio che si inserisce sì un DNA piccolo, una piccola parte che noi sappiamo che cos'è, ma non sappiamo dove va, e quindi le conseguenze di quello che causerà nel genoma accettore, nel genoma che riceve questo pezzetto di DNA. Ovviamente, e qui si va nell'esoterico, quando si parla di un gene animale all'interno di una pianta, si va ovviamente a superare i confini dei regni. Sarebbe tecnicamente fattibile. Il problema è, eticamente lo è? Io direi generalmente di no. Limitiamoci alla cisgenesi, quindi sempre OGM è, ma comunque un gene di una specie sessualmente compatibile all'interno di un'altra specie, per non rimescolare un genoma che è già bello così com'è, aggiungendo un solo gene, se proprio si deve. Parlare di incroci tra regni, microrganismi, piante, animali, è un argomento che oggettivamente mi fa accapponare la pelle. Tecnicamente è possibile. Quindi la fonte, mentre c'è il limite dell'interno della stessa specie nel breeding, nel miglioramento genetico, è superata nell'ingegneria genetica, perché si può addirittura trasferire del DNA di regni diversi da un organismo a un altro. Ovviamente tutto questo spaventa molto, giustamente anche che spaventi molto, e giustamente deve essere più che regolato, assolutamente blindato, direi. Però, per esempio, per ottenere una pianta di arancio o mandarino o limone ingegnerizzato, se il gene viene dall'arancio, mandarino o limone, è relativamente semplice. Ovviamente ci sono tutta una serie di tecnologie che non sto qui a elencarvi. Si passa attraverso la singola cellula che viene trasformata, rigenera in vitro, ricostituisce una pianta, perché le piante, un altro vantaggio del mondo delle piante è che hanno cellule come le cellule staminali, che sono molto poche negli animali. Le cellule meristematiche nelle piante invece sono molte e sono in grado, totipotenti, in grado di rigenerare una pianta completa, radici, fusto, foglie e frutti. Per cui questa totipotenza delle cellule vegetali ovviamente garantisce ulteriori possibilità dal punto di vista biotecnologico. Quindi ricostruire in vitro da una singola cellula una pianta intera che, dopo una moltiplicazione cellulare adeguata, rifà le radici, rifà il fusto, rifà le foglie e è uguale tale quale alla pianta che ha generato la singola cellula. Quindi veniamo a quelli che sono allo stato attuale. Per esempio, negli Stati Uniti le disponibili, che vedremo anche tutto sommato essere relativamente molto poche, ma anche molto finalizzate, molto diciamo orientate secondo i desiderata delle multinazionali, che è un altro degli i limiti che ovviamente gli OGM hanno incontrato nella loro storia, il fatto di essere in mano a pochi privati a fini legittimi di lucro, non necessariamente per nutrire il pianeta. Quindi parliamo di cotone, questi sono numeri appunto che dà la professoressa, io ovviamente non ho avuto possibilità di controllare nulla, ma è molto vicino alla realtà, il cotone è quasi interamente cotone BT, cioè resistente all'insetto che lo distruggerebbe, cotone transgenico, perché questa qui è una gene di un batterio che si difende dall'insetto uccidendolo, avvelenandolo, quindi la pianta di cotone è in grado di avvelenare l'insetto che la mangia, il che significa che viene distrutto l'insetto, non la uccide più alla pianta, e il gene di Bacillus thuringiensis, no, BT sta per Bacillus thuringiensis, è in grado di difendere la pianta offrendogli un'arma in più. Siamo nella trasformazione tra regni, un microorganismo che regala un suo gene a una pianta. Diciamo è molto meno accapponante di un animale su una pianta o di una pianta su un animale, però comunque diciamo siamo un po' border. Per esempio la colza, che è produzione di oli, tendenzialmente non per consumo alimentare, la soia, il mais, quasi tutte queste piante sono per mangimi e poco utilizzati per l'alimentazione umana, e limitato a poche caratteristiche. Per esempio, ho detto prima del Bacillus thuringiensis, il BT crops, oppure tolleranti ad erbicidi. Anche qui l'interesse della Monsanto, piuttosto che di qualche altra multinazionale, è di vendere il seme, l'erbicida, quindi di fatto io obbligo il contadino a comprare il seme, ma anche l'erbicida che la stessa Monsanto produce, per eliminare le infestanti. Certo, il contadino a quel punto lì ha molta più facilità di coltivazione perché non ha più le infestanti, è legato mani e piedi a quel tipo di sementi, a quel tipo di erbicida che la pianta di cui ha comprato le sementi è immune, perché transgenica anche questa, resistente a una molecola di sintesi erbicida. Ovvio che tutto questo materiale non potrà mai essere coltivato nel biologico, no? Sicuramente no, sono tutti chiaramente OGM. Però è altrettanto vero che, considerando i prodotti derivati, quindi la carne derivata da allevamenti bovini, latte, prodotti, formaggi e quant'altro, hanno un'origine, almeno negli Stati Uniti, che rappresenta il 75% di OGM. Quindi gli americani mangiano OGM derivati o OGM da alimentazione diretta, come la papaya, al 77% resistente a un virus che avrebbe distrutto la papaya delle Hawaii, non ne sarebbe rimasta più. In questo caso hanno utilizzato un metodo estremamente drastico, OGM o la papaya, alle Hawaii non ci sarebbe più stata, perché sarebbe stata completamente spazzata via da un virus incurabile. Quindi la papaya delle Hawaii è OGM, se andate alla Hawaii mangiate papaya, mangiate OGM. Non ci sono vie di mezzo. E c'è lo sweet corn da mangiare direttamente, di cui non viene data informazione riguardo alla quantità. Esiste per esempio una zucca, squash, al 13% dell'ettaraggio americano è transgenico. E qui vedete come un po' è diviso il mondo. Quelli verdi scuri sono quelli che coltivano in maniera massale OGM, mais, soia e altre diverse colture, e quelli in giallo sono i paesi, diciamo, a parte la Groenlandia ovviamente dove non ci cresce quasi nulla, e la Siberia, comunque Africa, pochissimi sudamericani, l'Europa e una parte dell'Asia. Invece io, la Russia non sarei così sicuro, ma comunque è in crescendo, così come in crescendo biologico da un certo punto di vista, è in crescendo anche la quantità di colture OGM, soprattutto industriali, quelle per mangimi o il cotone che è utilizzato per i vostri jeans. La stragrande maggioranza dei jeans che vestiamo sono ottenuti da cotone OGM. Non lo mangiamo, quindi non ci spaventa più di tanto, però è comunque impattante sicuramente dal punto di vista economico e sociale. Cosa c'è diciamo al fuoco, carne al fuoco? Per esempio virus per i quali non c'è una cura, no? Nel caso appunto in California portinnesto resistente al fan leaf virus che danneggia notevolmente la produttività della vite, piuttosto che una malattia chiamata greening disease negli aranceti, che in Florida e in altre regioni del Brasile, dove c'è il rischio che vengano spazzati via aranceti che costituiscono, noi in Europa non abbiamo quest'uso di bidoni di aranciati, di succo d'arancia, no? Da 5 litri o da un gallone come vengono usati negli Stati Uniti, intanto vedete anche voi telefilm americani che ci sono i 4 litri e mezzo, no? Il gallone di latte, il gallone di succo d'arancia presente in tutte le case americane. Ecco, questo consumo enorme, no? di succo d'arancia ovviamente è molto basato sulla produzione sudamericana, sulla produzione della Florida. Il green disease rischia di spazzare via, perché non c'è una cura contro il green disease, gli aranceti. E quindi ovviamente i produttori, così come è stato per la papaya negli Hawaii, sono più che allarmati. Dovessimo scoprire una resistente alla xylella fastidiosa che adesso sta decimando gli olivi in Puglia, penso che anche noi ci porremmo la questione: modifichiamo completamente il paesaggio pugliese e coltiviamo solo mandorli e gli olivi saranno spazzati via completamente, oppure utilizziamo o accettiamo una tecnologia OGM o meno. Dimmi. È successa la stessa cosa con il pomodoro San Marzano. Bravissimo. Sì, sì. Sì, ma sai, sposti il San Marzano dalla terra dei fuochi alla Puglia, quasi quasi ci hai guadagnato, no? Il paese di San Marzano non è contentissimo, però la zona era ovviamente... abbiamo cominciato a importare più pomodori dall'Olanda, sì, non so quanto sia conveniente, sicuramente se vai a parlare con i politici pugliesi o con i produttori di olivo pugliesi, in questo momento se tu li paventassi una possibilità del genere sarebbero probabilmente molto orientati a usare anche la bomba atomica pur di salvaguardare i loro olivi. Mi sembra del tutto lecito nella loro cultura di salvaguardare il loro prodotto, poi è chiaro che dipende... Non c'è un metodo per la lotta, non abbiamo ancora scoperto un gene di resistenza alla xylella, per cui, però se passa dall'olivo alla vite cominciano a tremare i polsi anche a molte persone qua in Trentino, perché la xylella fastidiosa, il Pierce disease negli Stati Uniti è un problema molto serio, per cui è una lotta molto intensa. Ci sono geni di resistenza, geni che incrementano la fertilità, geni che incrementano la produttività nonostante la carenza d'acqua, geni che salvaguardano la produzione di pomodoro, piuttosto che interessanti per aspetti nutraceutici, no? Con l'esaltazione della produzione degli antociani nel pomodoro 100 volte superiori a quelli presenti o addirittura assenti completamente come prodotto nei prodotti naturali, o il famoso Golden Rice che adesso è la seconda generazione, contiene 2 volte la quantità di vitamina A che necessita un bambino, per esempio asiatico, dove coltivano essenzialmente riso e si nutrono essenzialmente di riso, ma la cecità, causata anche da una carenza di vitamina A, è molto impattante nella società asiatica. Patata che non si imbrunisce, mela che non si imbrunisce, l'Arctic Apple è stata licenziata come coltivabile negli Stati Uniti il mese scorso, da ora in poi negli Stati Uniti, soprattutto nelle bustine dove ci sono le fettine di mela che non devono imbrunire, saranno probabilmente una buona parte riempite con l'Arctic Apple, una mela che non imbrunisce perché ha una polifenol ossidasi non di melo, per cui è transgenica, contenuta all'interno di queste mele. Piselli che possono resistere, che possono avere dei parassitoidi che salvaguardano la produzione. E dulcis in fundo, lo scienziato giapponese che ha prodotto la rosa blu con dei pigmenti non di rosa, che quindi anche questa è una rosa transgenica, bella, non so quanto necessaria, ma sicuramente bella. I prati che non si devono più toccare perché crescono molto lentamente piuttosto che E quindi veniamo al sodo, no? Negli Stati Uniti ci sono tre organismi, l'USDA che regolamenta fondamentalmente la resistenza ai pesticidi e l'impatto sull'ambiente dei pesticidi e delle piante OGM resistenti alle malattie, l'FDA che regola invece l'aspetto di pericolosità per le persone e gli animali, ovviamente, quindi per quanto riguarda mangimi e alimenti per l'uomo, e l'EPA che invece si occupa dei rischi per l'ambiente, quindi c'è o non c'è rischio nell'ambiente nel diffondere questa pianta. Questa è una serie di piante transgeniche che sono state licenziate recentemente negli Stati Uniti. L'organismo AFIS decide quando un organismo GMO diventa non regulated, no? Nello status non regulated si può coltivare, quindi non è necessario che sia più controllato. E qui appunto si viene a quelli che sono i problemi, oggettivamente, che si tende da parte di chi è estremamente, come dire, fidelizzato all'ottenimento di OGM e al loro uso, e d'altra parte a chi è radicalmente contrario. Direi che entrambe le posizioni radicali io non le condivido. Credo che si debba considerare caso per caso. Non sta a me comunque decidere né dire cosa è giusto, cosa sia sbagliato. Indubbiamente ci sono dei problemi che possono riguardare sufficienti food safety test, che appunto possono riguardare la qualità e la caratteristica del cibo e del mangime che viene proposto, la possibilità di attivare allergeni e tossine che possono fare del male, ovviamente, sia agli animali che alle piante che all'uomo, la contaminazione di OGM nell'ambiente o negli alimenti, la necessità di etichettatura e il gene flow, cioè il passaggio di materiale genetico in maniera trasversale a colture non OGM. D'altra parte, nell'ambiente la coesistenza tra GMO e biologico, lo sviluppo di resistenza agli erbicidi in piante invece infestanti, quindi che diventerebbero delle sorte di super infestanti, la possibilità di diffondere, di distribuire geni così chiamati pharmaceuticals, cioè geni di sintesi che possono finire nelle colture commerciali, la perdita di biodiversità, perché indubbiamente quando il 95% vengono coltivati degli organismi OGM si tratta di pochissime tipologie di sementi, non certo della biodiversità esistente, e poi tutte le questioni che riguardano i patent rights, che quindi è molta ricchezza nelle mani di pochi, indubbio che non possono essere degli argomenti. E qui lancio l'ultima pillola sul tavolo. Stiamo parlando di 25 anni fa. La cosa un pochino buffa è che gli OGM di cui stiamo parlando sono stati ottenuti 20-25 anni fa. Oggettivamente è giusto, è lecito, è assolutamente doveroso parlarne e regolamentarli, ma sono superati. Sono superati da altre tecnologie che non prevedono il DNA ricombinante, che non prevedono attività di chimica di sintesi, non prevedono la neosintesi di materiali genetici e il passaggio di tutto quello che nella legislazione che ci ha raccontato il dottor Calicetti è attualmente considerato OGM, ma metodologie che oggi porterebbero, tramite l'uso di proteine o di passaggi intermedi molto limitati di RNA che poi verrebbe distrutto, a modifiche di mutagenesi, che abbiamo visto per la legislazione attuale non sarebbero OGM, di modifiche all'interno del DNA, ovviamente stiamo parlando di loss of function, cioè di perdita di funzione di un gene, non può essere gain of function, cioè guadagno di funzione perché non inserisci nulla di nuovo, ma elimini qualcosa di presente, tramite la mutagenesi, né più né meno di quello che è stato eliminato nel grano che era alto 1,5 metri e oggi alto 60 centimetri, e è addirittura già oggi presente nella gene therapy nell'umano, nella trasformazione di animali e recentemente è stato ottenuto qualche successo nella trasformazione, tra virgolette, mutagenizzata di piante. Di fatto, chiudo con questa immagine che la metodologia che si chiama CRISPR-Cas, basata su appunto le due proteine, una batterica e una animale, che di fatto causano questa mutagenesi mirata su una sequenza nota, quindi non più a caso, ma su una sequenza nota, guidata da un RNA di sintesi che viene distrutto immediatamente dopo, metteranno o meno gli OGM definitivamente in cantina, perché oggettivamente è indubbio che ci sia difficoltà nell'accettazione degli OGM, che ci siano anche buone motivazioni, del tutto lecite nella loro discussione, nelle loro argomentazioni. Qui stiamo già parlando di quello che sarà materiale mutagenizzato nel futuro, che è già presente in molti paesi dal punto di vista della gene therapy. Stanno ottenendo, i cinesi hanno già ottenuto riso modificato, mutagenizzato. Negli Stati Uniti questo materiale è già non OGM per definizione, perché loro non considerano OGM tutto ciò che è ottenuto tramite, considerano il prodotto, non il metodo, non il processo. In questo caso sia il processo che il metodo non è OGM, quindi è già non OGM negli Stati Uniti. In Europa si sta dibattendo adesso, perché oggettivamente è materiale presente nella scienza da un anno e mezzo o due, per cui è reso noto e è stato ottenuto, i primi successi sono stati ottenuti 2 anni fa, 3 anni fa, per cui non esiste ancora molto materiale in merito, ma sta andando avanti molto rapidamente. E pomodoro è già stato ottenuto, mutagenizzato, riso, tabacco, patata. E di fatto stiamo oggi discutendo, pur con tutto l'interesse e tutta la bellezza della discussione di oggi, di qualcosa che probabilmente finirà in cantina molto presto, sostituito probabilmente da queste novità di cui avremo bisogno del legislatore e del giurista per aiutarci a dipanare. A un certo punto, se ha più senso una mutagenesi mirata su un solo gene o una distruzione di un intero genoma, come è stata fatta negli anni 50 dall'emerito professor Scarpelli, che ha praticamente costruito la rivoluzione verde italiana, partecipando all'evoluzione appunto della storia dell'agricoltura. E qui chiudo. Lascio al dibattito. Grazie. Grazie dottor Velasco per questo quadro e naturalmente tanti gli spunti, gli stimoli per il dibattito, nel quale ci sarà modo anche di esternare le considerazioni personali di ognuno di noi. Lo stesso dottor Velasco ha espresso dei pareri, delle valutazioni di tipo personale, ma in tal modo ha, se vogliamo, anche introdotto appunto la discussione che apriamo adesso. Non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, però sicuramente alcuni interventi potranno essere sviluppati e avere risposta da parte dei nostri relatori. Prego. Tante le implicazioni, naturalmente, in attesa del primo intervento, se non c'è già, chiedo io una cosa, ma al dottor Velasco proprio, ma è possibile, al di là di come uno la pensi a favore o contrario gli OGM, capire, ammesso che ve ne siano, quali sono le conseguenze di lungo periodo dell'utilizzo di queste pratiche? Ora, mi rendo conto che non è una domanda di altissimo spessore, però la domanda che sento fare più spesso. Ma è inevitabile che ci possano essere le conseguenze di vario ordine. Sicuramente riduzione del materiale coltivato, perché se tutti vanno a coltivare le stesse cose, la biodiversità, va a farsi benedire, rimane all'interno delle collezioni, delle istituzioni come la nostra, che abbiamo 1600 meli diversi in collezione, da cui ovviamente nel miglioramento genetico andiamo a prendere il materiale, quindi il polline o i fiori, per poter produrre nuove varietà. E chiaramente se tutti coltivassimo la stessa mela resistente, dolce, tutto quello che si vuole, tutto uguale, ovviamente andrebbe a ridursi in maniera notevole la biodiversità di quello che è coltivato. Implicazioni, come ho citato prima, ci possono essere DNA transfugo che va in qualche modo a contaminare l'ambiente, soprattutto in specie affini. sessualmente affini sicuramente, ma anche tutto sommato le barriere del DNA non sono così come dire, assolute, sigillate. Ci può essere scambio di materiale, acidi nucleici, soprattutto tramite microrganismi nel terreno, e quindi assunzioni di neo-DNA. Certo, non penso a malattie causate dall'ingerire materiale leggermente modificato, perché se è vero che tutti noi lo mangiamo da più di 20 anni, che gli americani lo stanno mangiando da 25, coltivandolo praticamente su quasi tutte le superfici, non sono malattie dirette, però sicuramente ci sono implicazioni sull'ambiente e possibili ovviamente allergie e tossicologie. Faccio un esempio: molti di noi sono allergici alle brassicacee, cioè al cavolfiore e altre piante. Se viene utilizzata un gene di una brassicacea all'interno di una leguminosa, per esempio la soia piuttosto che il fagiolo, e lo andiamo a mangiare, fossimo allergici alle brassicacee, cioè alla composizione amminoacidica delle proteine delle brassicacee, noi potremmo avere, causare l'insorgenza di un'allergia alle persone che naturalmente sono allergiche alle brassicacee che mangiano quel fagiolo. E questo ovviamente è qualcosa da evitare assolutamente. Arriveremo all'etichetta sulla melanzana praticamente. Beh, sulla melanzana, tracce di... sulla busta della melanzana deve esserci assolutamente, ma le dirò di più. La Food and Drug Association è molto più avanti, diciamo, degli organismi europei, perché diciamo si trova a che fare con queste problematiche da più tempo. Qualunque medicinale, qualunque cibo vada a finire sugli scaffali americani è testato per una decina, dozzina d'anni. Per cui diciamo che quantomeno le grandi problematiche sono affrontate in tempi decentemente precoci. Ecco. Senti, come i prodotti riportano già origine, provenienza e tutto, però non c'è questo livello di dettaglio appunto riguardo quelli modificati. In Europa già di più. In Europa è per quello che dicevo l'etichetta sulla melanzana, non perché... No, ma c'è l'obbligo di etichettatura in Italia, in Europa, quindi questo lo trovo una cosa... Sì, ma mi dice proprio anche se c'è una traccia di qualcosa appunto perché io posso sapere... Sì, sì, no, in Europa, in Italia in particolare, è sacrosanta e... è debitamente fornita al consumatore. Negli Stati Uniti, per esempio, no. Ecco, non c'è punto. Etichettatura. Ok, grazie. C'era un intervento. Ok, prima parlava degli organismi che, insomma, modificati, che possono essere, che ci sono questi test, insomma, negli Stati Uniti, prima che possano essere coltivati. Se loro non guardano gli effetti a lungo termine, quali sono i criteri che... Cos'è lungo 12 anni mi sembra abbastanza lungo, se intende centinaia di anni non lo so, ma una dozzina d'anni mi sembra abbastanza lungo. Ah, quindi comunque aspettano... Ma ci sono per esempio 3 fasi, sia per i medicinali che per il cibo, ci sono 3 fasi di valutazione dell'FDA, possono passare anche più di 15-20 anni prima che venga un prodotto nuovo immesso sul mercato. Per questo parlavo di prodotti oggi, stiamo discutendo di qualcosa che ho ottenuto 30 anni fa. E quindi ovviamente è qualcosa, sì, che oggi sappiamo bene non avere un effetto diretto sulla salute, però ovviamente ci possono essere effetti di altro tipo. Okay, quello che è arrivato sugli scaffali direi tendenzialmente è sano. E un'altra, non ho seguito tanto il filo del discorso dell'ultima domanda, forse l'ha già detto. Per quanto riguarda l'Italia, sull'importazione, sui prodotti alimentari, per esempio, non lo so, degli Stati Uniti, insomma, com'è che è regolata? Allora, c'è l'obbligo di etichettatura per quanto riguarda la maggior parte dei prodotti. Noi non abbiamo moltissimi prodotti di origine geneticamente modificata sul mercato. Un problema, secondo me, che purtroppo però va al di là dell'etichettatura, il fatto che farine di soia, per esempio, che sono percentualmente, sappiamo la soia percentualmente nel mondo è a grande prevalenza OGM. La soia, la lecitina di soia soprattutto, che non contiene più DNA, quindi non è più certificabile se era stata ottenuta da GMO o non GMO, è stata utilizzata per un mangime o per un alimento in generale, è molto difficile da dire, anche perché se lo vai a cercare non lo trovi il DNA, quindi come fai a dire che sia ottenuta da DNA, da pianta geneticamente modificata? Quello penso che sfugga, perché non è certificabile, non è etichettabile. Mentre invece qualunque altra cosa ottenuta da OGM in Europa è obbligatoriamente etichettato, per cui penso che sicuramente c'è la possibilità di distinguere. Comunque, cioè, tutto potenzialmente può essere importato? Ma, Oddio, dopo insomma, vi sono anche una serie di procedimenti, perché poi voglio dire, tanto la direttiva 2001 del 18 sulle emissioni in commercio di organismi, a questa si sommano degli ulteriori regolamenti su mangimi geneticamente modificati, su alimenti che contengono organismi geneticamente modificati, che implicano anche l'introduzione. Voglio dire, nonostante ci sia un processo che modifica anche nella sostanza, voglio dire, quel prodotto geneticamente modificato, come possono essere farine, ci sono comunque procedure che implicano l'autorizzazione e svolte a livello comunitario, con una procedura per cui deve essere la richiesta di emissione ad uno Stato membro, con il coinvolgimento in una seconda fase degli organi comunitari che a loro volta si avvalgono di pareri scientifici emanati dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con una procedura a valle complicata, con maggioranze qualificate, dei procedimenti molto molto complessi che hanno fatto sì che per esempio in Europa non fosse autorizzata l'emissione in commercio per molti molti anni prodotti geneticamente modificati, organismi geneticamente modificati, questo anche in violazione di accordi svolti all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ossia il fatto che per anni appunto vi sia stata addirittura una questione sollevata presso il panel dell'Organizzazione Mondiale del Commercio implicava e dipendeva proprio dal fatto che a livello europeo non si autorizza, non si riusciva ad arrivare alle maggioranze politiche qualificate che permettevano l'autorizzazione all'emissione in commercio su tutto il territorio comunitario. Sentivo il professor Josh un po' borbottare. Sì, no, non è che borbottavo. Uno, il commercio tra soprattutto Stati Uniti ed Europa di organismi geneticamente modificati è quello che blocca l'accordo, il nuovo accordo per il libero commercio tra Unione Europea e Stati Uniti. È uno dei motivi principali. Ed è uno dei motivi principali perché i due, e non credo si risolverà a breve. Naturalmente questo ha delle conseguenze in termini di scambi commerciali e anche di reciproche accuse di utilizzare questi prodotti come barriere non tarifarie per impedire questo commercio. C'è una visione del mondo che è molto diversa ed è questa visione del mondo è basata da un lato sul principio di precauzione e dall'altro sul principio di equivalenza. Cioè, per semplificare, il che corrisponde per quelli di voi che hanno le nozioni base di statistica a testare l'ipotesi H0 e l'ipotesi H1. E voi sapete che quelli che hanno fatto statistica che partire dall'ipotesi H0 e dall'ipotesi H1 sono due cose completamente diverse in termini di prove, di numero di campioni necessario per avere una risposta. Perché il principio di equivalenza dice se i due prodotti sono più o meno simili e non c'è nessuna dimostrazione che l'introduzione di un ulteriore o la sostituzione di un gene sia dannosa, i due diamo il via libera. E anche tutte le prove degli organismi americani partono da questo principio di equivalenza. Test H0, quindi con un certo numero di campioni, un certo numero di prove, una certa lunghezza del tempo. L'idea europea è il principio di precauzione, anche se non ho nessuna prova scientificamente dimostrata che l'introduzione di quel gene possa essere dannoso, se c'è il sospetto è del tutto lecito evitare che il prodotto contenente quel gene sia diffuso, coltivato, commercializzato, il che significa provare qualcos'altro, qualcosa di diverso, e non ci sono da un punto di vista scientifico prove certe che sia meglio adottare il principio di equivalenza o il principio di precauzione? Forse una precisazione, perché poi in verità il conflitto che vi è fra Europa, Unione Europea e Stati Uniti è più in verità un conflitto fra singoli stati nazionali. E questo per dire che anche a livello comunitario in verità la Commissione si è sempre, voglio dire, prodigata nel dire che il principio di precauzione ha a che fare non con lo scenario scientificamente incerto, ma con le modalità di gestione, ossia tendenzialmente si può fare, bisogna capire come, in maniera precauzionale, che diverge invece dall'approccio che hanno gli stati nazionali, che è proprio quello che diceva, nel senso che gli stati nazionali in verità non vogliono, vorrebbero utilizzare il principio di precauzione come strumento per già configurare uno scenario tendenzialmente negativo e sulla base del quale poi procedere alla divieto. Scusami, il principio di precauzione è messo in grande in tutte le direttive europee. Sì, io no. Il che significa utilizzare... avere visioni del mondo diverse, utilizzare tecniche statistiche diverse, utilizzare metodi per valutare la rispondenza o meno del tutto diversi. E questo non è risolvibile a livello scientifico, questa discussione. E si possono portare tanti esempi a favore o contro l'applicazione di uno o dell'altro principio, ma non c'è la possibilità di avere una valutazione scientifica assoluta. I due principi chiaramente diventano importanti quando, come potenzialmente nel caso delle OGM o delle altre anche più recenti modifiche, si hanno modifiche irreversibili e modifiche i cui risultati diventano noti dopo un periodo di tempo molto lungo. È del tutto normale, quando si hanno a che fare con problemi collegati con l'ambiente, che i tempi necessari per manifestare non i danni diretti ma i danni indiretti siano lunghissimi. Se voi pensate all'amianto, l'amianto dopo 30 anni si manifesta circa la dannosità del medesimo. Ecco perché la discussione diventa poi ideologica, perché dal punto di vista scientifico non c'è un criterio assoluto da seguire. Chiedo scusa se sono stato lungo. Grazie. No, anzi, credo che abbia toccato il tema forse centrale della questione. Prego. No, io ho finito. In prima fila, Gabriele. Allora, è nell'istante in cui a buon senso si riesce a capire come l'inserimento di un gene, abbiamo detto una paginetta di 5.000 parole, di 5.000 lettere, a fronte di, che erano 16 miliardi per il grano, no? E non può comportare questo grandissimo stravolgimento. E non, il passaggio di un gene esogeno non è diverso rispetto a quello di un gene del grano in generale, quindi nel senso, se io mangio il salmone il giorno dopo non mi sveglio con le branchie, no? Perché non mi passa quel gene lì, perché c'è tanta paura nei confronti del gene che non è del grano ma è di un'altra specie, e quando magari noi invece l'altra specie la consumiamo senza problemi. Questo. Allora, si tratta proprio, ritorno al discorso fatto prima, cioè non in questo tipo di discorsi, secondo me, non è valido l'approccio quantitativo, cioè se lei ha una fibra di amianto che gli va nella pleura, rispetto alla mia massa corporea, è meno probabilmente di un gene sul totale dei geni di una pianta, eppure dà effetti deleteri. Il secondo aspetto che è importante, ci sono, allora, c'è un aspetto culturale secondo me e un aspetto più propriamente, si potremmo dire, più vicino alla logica scientifica. L'aspetto culturale è molto semplice. La visione del mondo, dei rapporti tra uomo e natura, è mutata almeno due volte e sta mutando per la terza volta. Nell'epoca greco-romana la natura era vista come una qualche divinità, e tutti coloro che cercavano di superare le leggi della natura venivano puniti. pensate a Prometeo che viene costretto per aver dato il fuoco, Dedalo e Icaro che precipitano e via, ce ne sono, uno studioso ha raccolto circa una quindicina di questi miti che consigliavano, che entravano nella logica dei greci e dei romani, che avevano conoscenze tecniche avanzate, ma che non le applicavano perché scombussolare troppo, adesso detto in linguaggio molto, il problema della natura avrebbe portato a qualsiasi, a qualche disgrazia successiva. Questa visione del mondo si modifica, secondo uno dei migliori storici che io conosca, Carlo Maria Cipolla, in epoca medievale. Perché? Perché in epoca medievale, dice Cipolla, gli uomini cominciano a rappresentare i miracoli che sono dati dalla presenza di un Dio benevolo nella pietra, e poi a forza di rappresentarli nella pietra pensano di poterli attuare anche loro, e da lì nasce la grossa espansione della scienza e della tecnica. Oggi in gran parte della società sta ritornando una visione che potremmo richiamare neo-greca-romana, cioè l'idea che quello che è naturale, se si modifica, crea delle disgrazie. Dove io, per esempio, sono dell'avviso che non esiste una distinzione tra umano e naturale, perché l'uomo è una bestia più o meno come tutte le altre, non molto diversa. Ma questa visione del mondo, che è anche una conseguenza dell'aver creato molte aspettative che non si sono poi realizzate e dell'avere condotto la ricerca scientifica solo in elite via via più ristrette a livello mondiale, porta inevitabilmente a quel tipo di visione del mondo. Dal punto di vista invece più come dire, con un qualche fondamento di tipo diverso, il problema del tempo in queste cose non è mai, secondo me, ininfluente. Cioè, quando facevano la mutagenesi classica o quando c'era l'evoluzione naturale, il tempo necessario per ricostruire una pianta era lungo, e in questo tempo lungo c'era una sorta di selezione, per cui se insomma capitavano dentro, lo dico in termini, chiedo scusa, presapochisti, qualcosa che non andava, la pianta abortiva e nessuno la vedeva più. Quando io intervengo in maniera mirata, riduco fortemente il tempo, accelero fortemente, ed è la stessa cosa che prendere una macchina da Formula 1 rispetto a una Jeep. Una macchina di Formula 1 è molto più veloce, ma se vado su una strada che non è una pista, la possibilità di incidenti non previsti aumenta in maniera esponenziale. Quindi questa idea di questa, come dire, di nuovo visione greco-romana contrapposta alla visione medievale non è così priva di fondamento, ecco. Secondo me questi aspetti di ultimo aspetto, che è altrettanto decisivo al fine di come ci si pone, è la capacità della scienza di avere una visione olistica. Cioè, noi siamo abituati ad avere grosse specializzazioni. Per avere grosse specializzazioni in campo scientifico bisogna applicare il riduzionismo, come nel campo del diritto, voi vedete come questi del diritto, che sono dei miei nemici personali, si ingegnano nel particolare più sottile. Ecco, allora questa idea del riduzionismo, cioè di portare a il singolo aspetto la valutazione, si scontra col fatto che in sistemi complessi, in cui non contano, l'insieme è diverso dalla sommatoria delle parti, perché contano anche le relazioni nell'insieme, non solo la sommatoria. Nella pianta non contano solo i geni, ma contano anche l'epigenetica, cioè le nuove acquisizioni portano, e se vogliamo l'epigenetica è questa idea di nuovo della necessità di unire a una visione riduzionista una visione olistica, che è uno dei limiti più grossi al poter decidere in molti campi, ma anche OGM sì, OGM no, esaminando solo il problema come ottengo l'OGM. Non voglio togliere il mestiere al CEAR, si potrebbe sintetizzare quanto ha detto il professore, che ringrazio per gli approcci anche filosofici al problema. La gattina frettolosa fece i gattini ciechi, diceva mia nonna, no? Cioè ridurre troppo i tempi, non avere la pazienza necessaria per vedere gli effetti e le conseguenze di determinate scelte, anche estremamente avanzate tecnicamente, è uno dei limiti indubbi. Quindi accolgo volentieri il suggerimento di avere pazienza. D'altra parte, da tecnico e da scienziato, dico non dimentichiamo e non mettiamo da parte le conoscenze che abbiamo acquisito. E quindi cerchiamo di sfruttarle al meglio, nei tempi giusti e possibilmente anche rispettando i diritti dei molti, che spesso e volentieri vengono calpestati da interessi di pochi. Ecco, questo sicuramente. Grazie, abbiamo gli ultimi temi, due interventi. A dire la verità, c'era prima il ragazzo in prima fila. Sì, riprendo molto velocemente un paio di cose che avete detto entrambi, perché secondo me è vero che i tempi si sono molto velocizzati, avviene tutto più velocemente, però per la prima volta dopo 11.000 anni che coltiviamo il monococcum e l'estivum, sappiamo cosa succede in realtà. Quando negli anni 20 hanno incominciato ad usare i neutroni veloci per andare a fare un casino nel DNA e poi selezionare le piante che servivano loro, non avevano idea di cosa stessero facendo, ma neanche in minima parte, no? E ultimo punto che è stato tirato fuori e che si ricollegava alla mia domanda sulla paura, perché la mia non era una domanda di ambito biologico, era proprio a livello emozionale, perché la paura di questa singola aggiunta, no? Spesso di una cosa che la gente non conosce e poi non vuole approfondire, ovvero quello che è l'arricchirsi di pochi a discapito di molti e quindi delle multinazionali. E com'è possibile che grandi enti come l'Unione Europea non riescano a prendere una decisione e creare un monopolio, come è stato fatto per il tabacco, la benzina, cose del genere, beni di primissima necessità, su una cosa che dovrebbe essere regolamentata ancor più, perché ha delle implicazioni etiche, oltre che economiche e sociali. La multinazionale è verticistica, c'è l'interesse di pochi, ma pochi. Sì. L'Europa è un'armata brancaleone, difficile che abbia la stessa capacità di una multinazionale. Secondo me è essenziale tenere distinto il processo scientifico e l'acquisizione di conoscenze dalla coltivazione e la commercializzazione. Io non ho dati recenti, per cui però un'indagine di una quindicina d'anni, quindi le cose possono essere del tutto cambiate. Un'indagine di una quindicina di anni fa a cui avevo partecipato dimostrava che le spese per la ricerca erano grosso modo l'80% sostenuto in campo sementiero. Ricerca in campo sementiero, 80% sostenuto dal pubblico, 20% dal privato. Le sementi coltivate erano 70% privato e 30% pubblico. Perché? Ecco, più o meno sarà così. Perché, ma qual è il problema? Il problema è prima di tutto il diverso approccio, quindi uno è l'approccio per conoscere e l'altro è l'approccio per vendere. L'altro discorso altrettanto pacifico è che i tempi necessari per avere un ritorno, per il grosso sviluppo delle OGM tradizionali, è stato semplicemente perché produrre una pianta resistente agli OGM costava un decimo che produrre cercare una nuova molecola. Allora, se lei inserisse dei tempi sufficientemente lunghi, l'interesse primato viene meno, perché i tempi di ritorno in questo tipo di investimenti devono portare a un interesse del 10-15% all'anno. Se lei allunga semplicemente da 10 a 20 anni il tempo di sperimentazione, fa venir meno qualsiasi interesse privato. Noi viviamo in un'epoca in cui, contrariamente a quanto stiamo pensando, insomma, dopo 100 anni, ed è uno dei risultati della globalizzazione, come lo facciamo. La globalizzazione è prima di tutto finanziaria, la globalizzazione finanziaria, che è quello che porta a questo tipo di investimenti, ha necessità di essere molto veloce, di avere ritorni molto veloci. Questo si scontra dal punto di vista economico contro Quindi neanche questo è neutrale. E a livello europeo la discussione riguarda in parte i principi, in parte le conseguenze e in parte chi ne può guadagnare e chi no. E allora, a seconda di chi prevale, poi, come dice il mio buon amico, la legislazione non si capisce molto, beh, perché è anche un compromesso tra molti interessi diversi. Grazie professor Giosso, l'ultimissimo intervento. Sì, io solo un dubbio sul discorso della pazienza, perché se un mondo va a 250 km all'ora non posso usare la Panda, devo usare una Ferrari. Quindi un discorso, se dobbiamo contestualizzare nei tempi, come poi diceva anche lei, cioè nel Medioevo e nell'antica Roma o nell'antica Grecia è un discorso, posso portare pazienza. Potrei dirle, ma vale la pena andare con la Ferrari e schiantarsi? Vale la pena avere vale la pena per tutti le regole, umana, ma no, ma le regole, vede, allora non esiste, no, ma questo è un punto fondamentale, non esiste qualcosa che dica che dobbiamo andare veloci, dobbiamo andare veloci, no, noi andiamo, il 50% del nostro prodotto interno lordo è, deriva dalle regole che applichiamo, in agricoltura il 54% del reddito degli agricoltori in tutta l'Unione Europea deriva da contributi diretti o indiretti pubblici. Allora, voglio dire, vale la pena far correre questi pagandoli perché ci schiantiamo noi? Vale la pena utilizzare una Ferrari? Noi siamo come persone... Siamo delle persone in grado, nel 100% di noi, l'80%, il 50%, il 20% di guidare una Ferrari su strade di montagna o no? Beh, regolamentare bene sono d'accordo, però necessariamente dire no a tutti gli OGM, per esempio il Golden Rice non viene Il Golden Rice non viene coltivato per una ragione economica, perché ognuno ha brevettato un pezzetto di modifica del gene e quindi non si sono mai messi d'accordo su come distribuirsi i diritti dei brevetti. Allora, no al Golden Rice, che non è un no europeo, nell'Indonesia e dintorni, è semplicemente un problema che nessuno ha raggiunto l'accordo tra gli N brevettatori su come ripartirsi i diritti. Quindi non è un problema ideologico, è un problema pratico, perché qui entra tutto il discorso della brevettabilità, di cos'è un bene comune, un bene collettivo, è tutto brevettabile, il mercato sarebbe però un altro... No, se posso spendere due parole, poi andando parzialmente al di fuori da logiche giuridiche, se dovessi pensare come cittadino e dovessi individuare le ragioni che mi inducono ad avere un approccio negativo su coltivazione e commercializzazione di OGM, li individuerei proprio in ragioni di ordine sociale, economico, politico, che in verità sono quelli che passano in secondo piano più delle volte, perché nella maggior parte dei casi le argomentazioni sono tendenzialmente basate su argomentazioni o etiche, ma in senso ampio, in senso molto molto più filosofico, o scientifiche. Non avrei pregiudizi a fronte di incertezza scientifica nel sostenere un rischio. Io penso che a fronte dell'incertezza scientifica è giusto che una comunità politica, attraverso procedure che impediscano la prevalenza di interessi meramente economici, ritengo che sia giusto che una comunità politica determini il livello di rischio accettabile e ritenuto accettabile. La questione viene tutta complicata perché un'innovazione è buona o cattiva anche a seconda del contesto nel quale viene inserita. Attualmente probabilmente la regolazione, ossia la ripartizione delle esternalità positive e negative e l'allocazione di tale esternalità su operatori economici, titolari di brevetti, agricoltori, società civile, questa regolazione è ancora inefficiente e questo probabilmente rende la biotecnologia allo stato dei fatti come qualcosa di una cattiva tecnologia, non tanto perché lo è in sé, ma perché il contesto economico, sociale e giuridico è qualcosa che impedisce alla medesima tecnologia di svolgere una sua funzione positiva. Grazie, scusate, ma dobbiamo veramente chiudere. Del resto, diciamo che l'obiettivo di oggi era quello di fornire gli elementi conoscitivi. Poi, naturalmente, la scelta se guidare la Panda o la Ferrari, questa ognuno dipende dal vostro reddito. Esatto, anche naturalmente. Grazie, grazie professor Joss, dottor Calicetti, dottor Velasco, e grazie a voi che siete rimasti con noi anche oltre il tempo stabilito. Grazie. Grazie.